si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buona domenica cari ascoltatori da Alessio Maurizi, eccoci qua, ben ritrovati, staremo insieme fino alle 11, daremo un'occhiata alle prime pagine dei giornali, poi come sempre i nostri approfondimenti, apriremo anche il microfono verde più avanti, se intanto volete già cominciare a interagire con noi in tempo reale, vi ricordo i nostri contatti, siamo su Facebook ma siamo anche su Twitter, l'account del programma è chiocciola si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Cominciamo come sempre ogni puntata con una buona notizia. And now the good news. E come capita spesso, i giornali non se le fanno sfuggire piccoli gesti, diciamo così, di solidarietà, di generosità. Cade a Reggio Emilia, una giovane donna ritrova il portafogli con 440 euro per strada vicino a una banca, lo consegna ai carabinieri, era il portafogli di una pensionata di 85 anni che aveva appena ritirato la sua pensione. A ritrovare il portafogli, a restituirlo, una giovane ucraina di 29 anni che, pensate, stava uscendo dalla banca dopo aver chiuso un debito di 1600 euro, quindi insomma forse li potevano fare anche comodo, ma giustamente la non generosità ma la correttezza ha fatto sì che, come capita spesso, il portafoglio sia stato restituito, non ha voluto nemmeno il 10% della ricompensa che le sarebbe spettato per legge. Insomma, piccoli gesti che però ci fanno sorridere, ci fanno anche ben sperare. Così, giusto per cominciare la mattinata, adesso andiamo sui giornali di oggi e naturalmente si parla molto, come naturale che sia, di questo incontro fra Renzi e Berlusconi, di questa intesa per le riforme istituzionali ma soprattutto per la legge elettorale, e ci sono commenti anche in questo caso, come giusto che sia, diversi sul significato di questa intesa. Cercheremo anche di capire nella sostanza di cosa si tratta. Corriere della Sera, riforme, c'è l'intesa tra Renzi e Berlusconi, il segretario del PD, piena sintonia, il Cavaliere dice più forza ai grandi partiti, via libera a una nuova legge elettorale e alla trasformazione del Senato, apertura ad Alfano, giudizio positivo che arriva anche da Letta. Andiamo a vedere all'interno del Corriere un po' se si capisce di più di cosa si tratta. E allora vediamo, sbarramento, premio e proporzionale, così la nuova formula. E alla fine fu l'Italicum. Ecco di che cosa si tratta. Per la Camera dei Deputati la distribuzione dei seggi avverrà a livello nazionale in base ad un sistema proporzionale. Quindi diciamo la prima certezza che abbiamo è che si tratta di una legge sostanzialmente come quella che abbiamo adesso, proporzionale. La ripartizione avverrà su un collegio unico nazionale. Questo sistema servirà a garantire anche le formazioni più piccole, quindi al di là di quello che sentite dire dai partiti piccoli che sono preoccupati per il loro futuro, questa legge elettorale non sembra in grado, diciamo, di, non è una legge maggioritaria che elimina i partiti piccoli, è una legge che li contempla. Però per evitare che il risultato elettorale, scrive il Corriere, sia in balia delle formazioni politiche poco rappresentative, è stato pensato uno sbarramento del 5% per i partiti che facciano parte di una coalizione e uno sbarramento più alto dell'8% per i partiti non coalizzati, e anche questa è una cosa che somiglia molto all'attuale sistema elettorale. La governabilità e la stabilità sono assicurate da un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge almeno il 35% dei voti su base nazionale. Il premio ipotizzato consisterebbe in un 20% di seggi in più, che permetterebbe dunque di raggiungere complessivamente il 55% dei seggi. Dunque legge proporzionale con soglia di sbarramento e premio di maggioranza, cioè una legge uguale a quella che c'è adesso. Incredibile, alla fine la legge è uguale a quella che c'è adesso. La differenza ovviamente è che, non essendoci più il Senato, se passerà tutto il resto della riforma, e deve passare perché altrimenti non cambierebbe davvero nulla, non ci sarebbero più maggioranze diverse tra la Camera e il Senato. Vediamo però, se nessuna coalizione dovesse raggiungere il 35% dei consensi a livello nazionale, i voti verrebbero ripartiti proporzionalmente in base ai risultati raggiunti. Per quanto riguarda le liste bloccate e la possibilità di esprimere preferenze, altro punto sul quale la Corte Costituzionale si è espressa dicendo, considerando il Porcellum, l'attuale legge incostituzionale, non ci saranno preferenze da esprimere, ma il rapporto con l'elettore verrà assicurato, scrive il Corriere, da pochi nomi per partito che appariranno sulla scheda. Anche qui la mancanza di preferenze fa assomigliare questa proposta di sistema elettorale in maniera sorprendente all'attuale sistema elettorale. Mi sbaglierò io, ma rispetto agli altri modelli, il Mattarellum o la legge dei sindaci, mi sembra quella che ricalca di più l'attuale sistema elettorale. C'è però un rebus, che è quello dei numeri, perché se alla Camera Forza Italia e il Partito Democratico anche da soli avrebbero i numeri per votare una legge elettorale, comunque una riforma, al Senato il Corriere della Sera fa i conti e sembra che sia più complicato, perché prima di tutto c'è da tenere conto che i senatori renziani sono una minoranza dei senatori del PD, che ha portato in Parlamento una squadra a forte caratterizzazione bersaniana. Adesso i bersaniani però sono in minoranza e su questo accordo sembra che mugugnino, anche se ieri Letta appunto ha dato una sorta di via libera. Insomma, vabbè, sembra di capire che ci vorrà un accordo più largo di quello tra il PD e Forza Italia, perché al Senato non ci sarebbero i numeri per approvarla una legge elettorale solo da parte di questi due partiti. Andiamo un po' a vedere anche nell'area dei commenti. Cominciamo per esempio su Repubblica. I campi elisi di Silvio l'Ispanico, scrive Eugenio Scalfari. Attenzione. Mi viene in mente, dice, un celebre film il cui protagonista era l'attore Russell Crowe, generale delle legioni e supposto successore di Marco Aurelio, il quale però venne ucciso dal figlio Commodo, che diventò imperatore. L'ex generale Russell Crowe fu ridotto in schiavitù e chiamato Ispanico. Dopo varie vicende affrontò lo stesso Commodo nell'arena del Colosseo, si uccisero reciprocamente. Il film si chiude con l'arrivo di Ispanico nei Campi Elisi, dove ritrova sua moglie e i suoi figli. Resta ora da capire, scrive Scalfari, per noi che viviamo 2000 anni dopo questa romanzesca vicenda, chi sia l'Ispanico di oggi, se Berlusconi, Renzi o Letta. Personalmente propendo per Berlusconi, somiglia all'Ispanico del film sia come capo di legioni sia nella fase della schiavitù, condannato dalla Cassazione e deposto dal Senato, sia nel ritorno ai Campi Elisi. C'è tornato infatti ieri sera nell'incontro con Renzi nell'ufficio che era stato di Bersani, e ci resterà ormai per sempre, quali che siano i risultati dell'incontro, Berlusconi, Ispanico, Renzi l'ha riportato al centro della politica italiana, scrive Eugenio Scalfari. Il commento, avete capito, nella sostanza da parte del fondatore di Repubblica è che con questa mossa Renzi ha ridato vitalità e visibilità e centralità a Berlusconi, al di là della sostanza dell'accordo. È un'idea condivisa anche dai giornali del centrodestra. Per esempio il Giornale scrive: la guerra è finita, la svolta della sinistra, Renzi riceve Berlusconi e lo riconosce come primo e legittimo interlocutore. Tra i due piano accordo sulle riforme da fare subito. Alfano e compagni furenti. Leggiamo brevemente il commento di Alessandro Sallusti. Dice: ieri 18 gennaio 2014 potrebbe essere la data di concepimento di una nuova Italia, non solo perché nell'incontro tra Renzi e Berlusconi nella sede del PD, e questo è già un fatto storico, sono state messe nero su bianco tre riforme vere della politica, legge elettorale, abolizione del Senato e costi delle regioni, ma soprattutto perché è stata siglata la fine di una guerra civile che da 20 anni paralizzava il paese. Matteo Renzi, scrive Sallusti, trascina con la forza la sinistra fuori dall'anti-berlusconismo ideologico, militante, cieco, stupido. Da oggi Forza Italia e il Cavaliere sono avversari politici da battere nelle urne, non più il male assoluto da estirpare a forza. Lo stesso tenore lo ritroviamo nel titolo di Libero. Olè! E ora il voto. Renzi rompe il tabù, incontra Berlusconi e trova con lui l'intesa sulle riforme. Non è d'accordo invece il Fatto Quotidiano. Nel suo commento sul vice direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, scrive così, dice: come può il governo Letta, nato dall'accordo tra Berlusconi e il Partito Democratico con la benedizione di Napolitano, cadere se il segretario del PD si accorda con Berlusconi? Si dirà: ma Berlusconi e il suo partito non ne fanno parte. Vero, ma l'ha deciso Berlusconi, non gli altri, che lo pregarono fino all'ultimo di restare con loro. Si dirà: ma Berlusconi è un pregiudicato per frode fiscale. Vero, ma lo è dal 1 agosto e ha lasciato la maggioranza e il Senato a fine novembre. Per 4 mesi è rimasto da pregiudicato e alleato del partito Partito Democratico senza che Letta, Berlusconi, Bersani, D'Alema e Napolitano muovessero un sopracciglio. Si dirà, ma se Renzi incontra Berlusconi nella sede del PD, lo rilegittima e lo resuscita? Dipende, scrive Travaglio. È vero se fa un accordo per riportarlo al governo, è falso se fa un accordo per una legge elettorale che ponga fine alle larghe intese. Si dirà, ma l'accordo per la legge elettorale va fatto con gli alleati di governo. Falso. Una legge elettorale imposta dalla maggioranza alle opposizioni sarebbe una mascalzonata identica a quella del centrodestra che nel 2005 varò il Porcellum per fregare il centrosinistra alle elezioni del 2006. Cioè, avete capito, il commento in questo caso di Travaglio non è d'accordo sul fatto che l'intesa tra Renzi e Berlusconi riporti al centro della scena politica Berlusconi. È vero momentaneamente, però l'accordo riguarda, dice Travaglio, la legge elettorale, non il governo, e quindi non è vero che Berlusconi torna al centro della scena politica, è vero che avalla un accordo che pone fine alle larghe intese. Poi ognuno tornerà alla sua coalizione alla ricerca appunto di una maggioranza con nuove regole. Come avete capito, oggi sui giornali c'è molto di politica, però dalla prima pagina della Stampa invece voglio leggervi questo titolo che è una fotonotizia, si vede dall'alto il treno deragliato in Liguria. A metà della settimana scorsa l'Intercity deragliato tra Andorra e Cervo a causa di una frana. La Liguria crolla sotto il peso del cemento, maltempo, un centinaio di frane e ferrovia bloccata. Il procuratore di Savona che dice c'è la mano dell'uomo. Leggiamo brevemente questo approfondimento. Liguria, le frane mandano in tilt la circolazione. È sempre così. Ogni volta che piove un po' più del normale, la Liguria ti crolla addosso. Quella striscia di terra tra mare e montagna, schiaffeggiata dalle onde, frustata dalla pioggia, scivola. E allora quasi non sorprende quando la Coldiretti dice che il 98% dei comuni liguri è a rischio frana o alluvione. Avete capito bene? Il 98% dei comuni liguri è a rischio frana o alluvione. Negli ultimi due giorni sono un centinaio le frane che l'hanno colpita, soprattutto nella provincia di Imperia. Gli sfollati hanno superato ampiamente quota 200. Tornando all'inchiesta, scrive la Stampa, la Procura di Savona ha disposto il sequestro dell'intero ufficio tecnico del comune di Andorra, con la polizia giudiziaria alla ricerca delle autorizzazioni a costruire le villette a strapiombo sulla linea ferroviaria. Basta passare di lì una volta e si vede quante sono e come sono costruite le villette a strapiombo sulla linea ferroviaria. La casa in questione, in cui è crollato un pezzo di terrapieno praticamente, andando addosso alla ferrovia, è stata costruita, scrive la Stampa, nel 64. L'ultimo intervento che la riguarda è la realizzazione di una terrazza parcheggio nel 1992. È proprio quell'area che è crollata addosso alla ferrovia. Non era mai successo nulla, sono sconvolto, è il commento di Angelo Bergomi, proprietario di un alloggio lì dal 1970. Pensate che grande occasione che avrebbe l'Italia per far ripartire l'economia con un piano di investimenti di miliardi di euro per mettere in sicurezza il territorio. Altro che IMU, altro che cuneo fiscale. I miliardi di euro, questa è opinione mia ma non solo, anche di molti tecnici, andrebbero investiti per fare un piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio italiano. Darebbe posti di lavoro, farebbe ripartire l'economia alla maniera del New Deal di Roosevelt, cioè soldi pubblici, investimenti, però proprio dati per un fine positivo come la messa in sicurezza del territorio. Si dice sempre, ma non ci sono mai soldi per farlo. 800 24 00 24, dopo il giornale radio delle 9, cominciamo ad aprire il numero verde. Adesso andiamo a parlare del domenicale, a tra poco. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Amo volare e so quanto contano controllo e fiducia durante una turbolenza. Per questo mi fido di Barclays, che sa aiutarmi a tenere la giusta rotta in caso di imprevisti per realizzare le mie ambizioni. E da oggi mi rimborsa l'imposta di bollo sul deposito titoli fino alla fine del 2015 per un massimo di 3.000 euro. Scopri i dettagli in filiale o sul mio traguardo.it. Barclays, realizza le tue ambizioni. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida fino al 34/2014, soggetta a limitazioni. Condizioni, fogli e documenti informativi su ilmiotraguardo.it. Strade in diretta. Traffico al momento scorrevole sulle autostrade, attenzione sulla 4 Milano-Brescia, in seguito ad un incidente è stata chiusa l'entrata di Grumello in direzione di Milano. Sul resto della rete il maltempo condiziona gli spostamenti al centro-nord e lungo il basso versante tirrenico e l'allerta meteo si sposta al centro-sud. In Liguria attenzione ai ristagni d'acqua sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Renzano e Voltri e tra Pietra e Finale Ligure. La nebbia riduce la visibilità sulla 14 Adriatica tra Forlì e Cesena e sulla 15 della Cisa tra Berceto e Pontremoli. Nevica debolmente sulla 6 Torino-Savona, alle porte di Torino e poi tra Ceva e Millesimo. Al sud abbiamo forti raffiche di vento sulla 3 Napoli-Salerno tra Cavare Tirreni e Salerno, tra Messina e Palermo sulla 20 e sulla 16 Napoli-Canosa tra Vallate e Candela. Infine segnaliamo nel Veneto che sono a rischio i treni regionali per uno sciopero in atto sino alle 21 di questa sera e senza fasce di garanzia. È tutto, torniamo tra mezz'ora. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati. Restiamo in edicola come ogni domenica a quest'ora. Andiamo a curiosare tra le anticipazioni dell'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale, curato come ogni settimana dalle mani sapienti di Armando Massarenti. Buongiorno Armando, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica a tutti. Oggi quale scrigno del vostro sapere ci vuoi aprire per ingolosirci con, ho visto che c'è un po' di poesia, molta scienza? Sì, molta anche letteratura, diciamo che era un po' che non scriveva un racconto di quelli divertenti che sa fare lui, ma anche molto profondi. Ermanno Cavazzoni, uno dei nostri maggiori scrittori italiani, che si cimenta con un esercizio di quelli rocamboleschi che sa fare lui, in cui immagina che il sindaco sia una formica. Come sarebbe bello, ed immagina un mondo in cui è il sindaco che produce lui stesso, come fosse in un formicaio, i suoi stessi cittadini, e con una serie di divagazioni che sono assolutamente esilaranti. Ecco, questo per dire che il Domenicale è sì un giornale di alta cultura, parla di temi molto seri, ma parla certo anche di cose molto divertenti, propone questa letteratura anche spesso così molto svagata, ma in realtà sempre molto attenta, esatto, alla realtà. Armando, il sindaco è una figura quanto mai attuale, esatto. Insomma, sembra che solo loro riescano a fare politica. Si parla anche di legge elettorale dei sindaci, tanto per dirne una. Assolutamente, insomma. Si parla della legge elettorale che dovrebbe diventare il modello dovrebbe essere quello appunto dei sindaci. Poi tra l'altro continua ancora la serie degli articoli di queste articoli di deliziosi di Francesco Cuccini, che ormai praticamente è dedicato più alla letteratura, anzi ha deciso di abbandonare la canzone, e qui ci propone a proposito di cose perdute che la carta carbone, cioè quei tempi in cui si usava la carta carbone. Ecco, questi sono due piccoli esempi letterari. Poi ce n'è uno molto più alto, se vogliamo. Sapete che Seamus Heaney, il premio Nobel 1995 per la letteratura, che ci ha lasciato poco tempo fa, ha lasciato anche come ultimo lavoro, che è uscito adesso in Inghilterra, niente meno che una traduzione di alcuni componimenti del nostro Giovanni Pascoli. Quindi avremo premio Nobel, Seamus Heaney, noi ne anticipiamo due di questi componimenti, e Paolo Febraro ci racconta. Paolo Febraro è colui che ha curato per più di un anno, e adesso stiamo un po' arrivando alla fine, ha curato la rubrica Poesia d'oggi, dove ogni settimana noi stiamo proponendo un poeta italiano inedito. Questa settimana si tratta di Enrico Testa, e però Febraro ci scrive anche questo lungo articolo in cui racconta e spiega bene i criteri che Seamus Heaney, cioè un grande letterato del nostro tempo, premio Nobel, ha usato per tradurre il nostro Pascoli. Un Pascoli che ormai tutti lo sanno, è già stato sdoganato in tutti i modi possibili e immaginabili, è una poesia di grandissima di raffinatezza, a partire anche da quelle più note. Per esempio, una delle traduzioni che noi proponiamo è Novembre, la famosa poesia appunto delle poesia che inizia con il campo mezzo grigio e mezzo nero, resta un aratro senza vuoi, che l'abbiamo studiata un po' tutti, insomma, esatto, certo. Che finisce con io come sono rimasta, come l'aratro in mezzo alla magesa. Ecco, certo. Sarà bello vederlo, appunto, lo potrete leggere in inglese. Dopo che avevamo fatto tradurre Leopardi in inglese, credo che molto spesso noi cerchiamo di far vedere, appunto, come l'inglese possa essere una lingua molto bella e molto istruttiva, sorprendente anche per rileggere la nostra poesia. A proposito di lingua inglese, ho visto che ospitate anche un intervento del grandissimo Noam Chomsky, linguista, no, ma anche intellettuale, insomma. Esatto, cosa... ma qui noi ci concentriamo proprio sul linguista, e il linguista sarà non a caso, c'è cioè un evento piuttosto importante che noi segnaliamo. Lui sarà in Vaticano a parlare in una conferenza, appunto, in cui parlerà della natura del linguaggio, anzi della competenza linguistica. Poi è il suo tema di fondo, è una vera rivoluzione quella che lui ha messo in atto ormai una cinquantina d'anni fa. Noi abbiamo un suo allievo molto bravo, che è Andrea Moro, che ha scritto dei libri molto belli per Adelphi, su questo, che lo presenterà in Vaticano. Ci sarà anche il nostro Gianfranco Ravasi, peraltro, che è il nostro autore sia delle sue sapienti esegesi bibliche ogni settimana, sia della bellissima rubrica Breviario che abbiamo sempre in prima pagina. Ecco, quindi queste sono un po' le novità. Sì. Chomsky risponde anche a polemiche recenti che vorrebbero mettere, è un pezzo insomma, che non è solo un pezzo giornalistico, è anche un pezzo, diciamo, in cui dice cose che non aveva mai scritto da nessun'altra parte, in cui risponde ad una serie di polemiche che vorrebbero mettere in discussione la sua teoria. Ecco, e quindi, rimanendo in ambito scientifico, poi arriviamo al nostro ospite di oggi, no? Certo, lo vogliamo salutare intanto subito. Franco Giudice, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Qui il nostro Franco Giudice in copertina ci offre una vera rarità, nel senso che, o meglio, una novità, che è una novità editoriale, che parla di un aspetto di Newton che è molto interessante. Isaac Newton, insomma, il grande scienziato che ha dominato per più di due secoli, due secoli e mezzo la scena della scienza, finché non è arrivato Einstein, ma soprattutto era un grande scienziato, ma da quando Keynes, il famoso economista, trovò un baule pieno di scritti che apparentemente non sembravano affatto riguardare la scienza, ma riguardavano l'alchimia, la teologia, la cosiddetta pesca sapienza, si è visto tutto un altro lato di Keynes. Ecco, allora Franco Giudice ci aiuta, ma adesso lasciamo a lui la parola, a capire se ci sono due Newton oppure ce n'è uno solo. Grazie Armando. In realtà diciamo, la questione è molto controversa, nel senso che Newton durante la sua vita ci tenne moltissimo a mantenere segreto questi suoi interessi, che erano interessi molto importanti e prioritari, che riguardavano la religione, l'interpretazione dell'Apocalisse, ricerche di alchimia, ricerche di cronologia, eccetera, eccetera. Questi manoscritti a un certo punto furono comprati in parte anche dal grande economista Keynes, e sono sempre diventati l'altro Newton, il Newton cosiddetto segreto. Questo libro che domani presentiamo, di due grandi storici della scienza americani, che si chiamano Mordecai Feingold e Jed Buchwald, cercano di mostrare come in realtà il metodo che Newton ha utilizzato nelle opere scientifiche, per cui è famoso, come l'optics piuttosto che i principi a matematica, in realtà fosse lo stesso metodo che lui utilizzava per leggere le profezie di Daniele, piuttosto che fare gli esperimenti di alchimia, piuttosto che individuare come era fatto il Tempio di Salomone, a cui dedica moltissimo, diciamo così, tempo e spazio nelle sue ricerche, per dimostrare come la civiltà ebraica fosse quella da cui tutte le altre si erano poi, diciamo così, sviluppate. Un Newton unitario che mette una sorta di, come dire, il punto finale a questa duplicità del personaggio, come un personaggio schizofrenico, un po' scienziato e un po' teologo. Armando, io vi devo salutare perché il tempo a nostra disposizione è finito qua. Grazie a Franco Giudice, grazie anche a te Armando Massarenti, curatore e direttore del Domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore. Come ogni domenica abbiamo cercato di ingolosirvi, avete sentito quante anticipazioni, quanti appuntamenti, insomma quante cose belle ci sono andate in edicola. Armando, noi ci sentiamo domenica prossima. Alla prossima domenica e buona lettura. Grazie, grazie. Noi invece ci sentiamo dopo il giornale radio, più tardi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, cominciamo ad aprire il numero verde per intervenire in diretta. Potete commentare quello che avete sentito, quello che sentirete, potete continuare a raccontarci per esempio che cosa ha reso bella la vostra settimana, così come nello spirito di si può fare il sabato e la domenica mattina, anche se oggi il nostro contest per il quale si vincono i biglietti della mostra di Edvard Munch a Genova, Palazzo Ducale a Genova, sono legati a indovinare, come ogni domenica, il personaggio della settimana. Il personaggio della settimana, il primo indizio ve lo diremo dopo la pubblicità, tra poco. Adesso però voglio ricordarvi una notizia che riguarda anche noi del Sole 24 Ore, perché ospitiamo una iniziativa, Swinging Britain. Gli studenti della St. James Henderson School di Milano raccontano con video, performance, interviste quanto Oxfam fa e può ancora fare per combattere povertà e ineguaglianze e promuovere pratiche di consumo responsabile. Una sfilata di capi donati da grandi stilisti, presentati dai ragazzi in passerella oggi alle 17 verso la sala collina del Sole 24 Ore di via Monterosa 91 a Milano. Un segnale importante e innovativo che siano i giovani a mettersi in gioco con un progetto pilota, replicabile però in altre scuole, che li ha impegnati per oltre 3 mesi di attività di sostegno a una grande organizzazione, Oxfam appunto, che interviene nelle emergenze umanitarie, combatte ineguaglianze e povertà, educa a modificare e migliorare pratiche dei consumi alimentari in giro per il mondo. Questo avverrà oggi pomeriggio alla sala collina di via Monterosa 91 a Milano. 800 24 00 24, ci sentiamo dopo il traffico. Si può fare cronache da un paese migliore. All'indomani del terremoto dell'Aquila del 2009, l'allora direttore del Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, Eugenio Coccia, disse e pensò: come possiamo fare a far tornare, anzi a far migliorare l'Aquila, a farla tornare un posto dove si voglia venire a vivere? Dobbiamo inventarci qualcosa che attiri, che crei attenzione. E così venne progettata la nascita di una scuola di specializzazione. 4 anni più tardi questa scuola ha visto la luce, qualche settimana fa, e allora noi vogliamo parlare di questa eccellenza che, come ci ricorda la canzone dei Beatles, Getting Better, ci consente appunto di andare migliorando. Buongiorno Eugenio Coccia. Buongiorno a voi. Attualmente appunto direttore del Gran Sasso Science Institute. Mi dovete spiegare perché tutto in inglese sempre, questo? Pronto? Sì, è una scuola dottorale. Beh. Internazionale. No, la mia è una battuta. È chiaro che quando si fa una scuola internazionale si punta ad avere riconoscibilità e ad entrare in certi standard appunto internazionali. Io faccio una mia piccola, inutile credo, crociata per la difesa della lingua italiana, ma ci sono ambiti e ambiti. L'ambito accademico, forse lei mi confermerà, scientifico, non è il più adatto, no, a difendere. Sì, no, specie perché una buona parte dei nostri allievi sono appunto, vengono da fuori Italia, così sì, come anche i nostri docenti, quindi l'inglese è la lingua riconosciuta nella scienza, insomma. Ecco, ma io ho descritto così l'iniziativa che vi ha visto protagonisti attivi, concreti nella realizzazione di questa scuola. Ci sono molte cose da raccontare a questo proposito. La prima che voglio aggiungere, poi la faccio parlare e spiegare bene tutto quello che avete fatto e che avete inaugurato da poco, è che a ricordarci questa notizia è stato il New York Times qualche giorno fa, perché la stampa nazionale, sbaglio, è stata un po' distrattina. Sì, l'impressione è che la stampa nazionale sia presa più da, diciamo, dalla politica, dalle notizie così, diciamo, quotidiane e un po' chiusa in se stessa forse rispetto a questa realtà che invece ha attratto l'attenzione appunto internazionale, non solo dell'Ocse ma anche del New York Times per esempio. Perché alla fine siete riusciti a realizzare una cosa che ha quante domande avete avuto? Abbiamo avuto 552 domande, per 36 posizioni. Tra italiani e stranieri. Potuto fare, tra l'altro, una ottima selezione, diciamo. Certo, certo. E che cosa, di che cosa stiamo parlando? Di che scuola stiamo parlando? Beh, stiamo parlando di una scuola di dottorato di ricerca, quindi post laurea. Sì. E quindi una fase in cui sono già laureati questi allievi e sono nella fase in cui stanno decidendo se diventare dei ricercatori, quindi dei professori universitari o nei centri di ricerca, oppure se diventare degli imprenditori. Cioè stanno un po' decidendo il loro futuro in questa fase, quindi è una fase molto critica e il percorso triennale sì. che abbiamo disegnato così sulla falsariga anche di quello che succede nelle altre scuole internazionali di dottorato prevede per il primo anno un irrobustimento della propria cultura personale, diciamo, con dei corsi, e poi gli altri due anni sono completamente dedicati a un progetto di ricerca, ed è quello che determinerà poi il futuro di queste persone. L'ambito del quale stiamo parlando, lei lo dà per scontato, però ricordiamolo, perché credo che sia la fisica. No, guardi, no, sono quattro percorsi di dottorato sì. di ricerca. Uno è in fisica, sì. uno in matematica, uno in computer science e l'altro in studi urbani. Ah, ecco. E quindi quattro percorsi per 36 studenti che sono venuti apposta, in 500, pensate, hanno fatto domanda per questa scuola. Non ce ne sono molte scuole di questo genere in Italia, quante altre ce ne sono? Allora, guardi, ce ne sono altre, diciamo, altre cinque. Una è la SISSA di Trieste, che è soprattutto in fisica, ma non solo, sì. ma appunto anche in matematica, anche in neuroscienze. Un'altra è la famosa Normale di Pisa, fondata certo. da Napoleone nel 1810. Poi c'è sempre a Pisa il Sant'Anna. Sant'Anna, da cui viene tra l'altro il ministro Carrozza. Esattamente. E vicino a Lucca c'è l'IMT, che è un'altra scuola come quella che sì. noi vogliamo diventare. E poi c'è la IUS a Pavia. Ecco, diciamo che in Italia sono poche. Questa nostra è la prima sotto Pisa. Ecco, tra l'altro, perché ben tre sono concentrate in Toscana, nel centro-sud non c'era quasi niente, adesso ci siete voi. E sì. pensate, è una cosa incredibile, a me fa impazzire, si parla sempre, si riempono le trasmissioni, i giornali, del fatto che in Italia non si fa ricerca, che i giovani devono andare all'estero, la fuga dei cervelli, che poi spesso fuga non è, ma è esplorazione nel mondo come è giusto che sia. Certo, c'è anche un problema naturalmente di lavoro in Italia e di occupazione. Poi c'è un'iniziativa straordinaria come questa, in grado di attrarre cervelli dall'estero, per esempio, e non ne parla nessuno, è una cosa pazzesca. Voi pensavate di riuscire a conquistarvi, non dico le prime pagine dei giornali, ma insomma un po' più di attenzione, oppure sapete, sapendo lei, insomma, è un professionista in questo ambito da tempo, è partito già rassegnato, dice lo facciamo, ma tanto sappiamo che non ne parlerà nessuno in Italia. No, guardi, non è che l'abbiamo fatta per far parlare di noi, l'abbiamo fatta per incidere effettivamente sulla realtà nazionale e in special modo su quella dell'Aquila. Per fare un paragone con gli altri paesi e anche per capire la necessità in qualche modo di questa iniziativa, sì. se lei guarda la mappa della Francia o della Germania o della Gran Bretagna, la vede cosparsa di scuole di questo tipo. Ecco, in Italia sono molto poche, quindi contribuiamo a colmare un gap, diciamo, in un certo senso, e poi in più abbiamo questa motivazione specifica di rilanciare l'Aquila. Ma è vero quindi quello che appunto riportano i giornali locali e qualche raro articolo, compreso quello del New York Times, che tutto è nato proprio pochi giorni dopo il terremoto da un'idea che lei e i suoi collaboratori, insomma, avete avuto proprio per pensando al futuro dell'Aquila dopo quello che era successo? Ma sì, guardi, io mi sono trovato in quell'epoca a essere direttore dei laboratori del Gran Sasso, sì. che appunto in realtà scientifiche di eccellenza dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e in quel periodo, mentre il laboratorio non aveva avuto grossi danni, per fortuna, dal terremoto, l'Università dell'Aquila invece li aveva avuto enormi. Sostanzialmente gli studenti, stiamo parlando essenzialmente di quelli di fisica, non avevano più un luogo dove fare lezione, dove fare gli esami. Era aprile, quindi c'era tutto il secondo semestre da completare con gli esami, e quindi noi li ospitammo nei nostri spazi sui laboratori del Gran Sasso, e fu in quell'occasione che, discutendo con Paola Inverardi, che allora era la preside della facoltà di scienze e ora è la rettrice dell'Università dell'Aquila, con Piero Marcati, che era il direttore del Dipartimento di Matematica, con Roberto Aloisio, con altre persone anche giovani, abbiamo architettato, diciamo così, questa possibilità, questa proposta. Sì. Questa proposta ha avuto poi l'occasione di esplicitarsi, sì, perché il Ministero dell'Economia chiamò l'OCSE a gestire in una riunione a Roma, pochi mesi dopo il terremoto, una riunione in cui si scrutinassero proposte, progetti per rilanciare l'economia aquilana. Quelle classiche riunioni dove spesso poi non viene fuori niente, cioè nel senso che ci sono offerte d'aiuto, bandi internazionali, poi come sappiamo per esempio spesso sui fondi europei, no, che non vengono spesi perché non ci sono proposte, invece voi siete arrivati con una proposta che è stata colta. Sì, appunto, abbiamo avuto l'appoggio completo dell'OCSE, che ha detto ovviamente una realtà come questa non si può costruire nel deserto, ma l'Aquila non era il deserto da questo punto di vista, perché aveva un'eccellenza scientifica riconosciuta che è la Pordenone di Gran Sasso, perché l'Università dell'Aquila stessa aveva delle punte di eccellenza, per cui su questo abbiamo costruito questo progetto. Quindi possiamo dire a questo punto missione compiuta 4 anni dopo. Missione compiuta, bisogna ringraziare ovviamente una serie di attori, sì, politici e la loro sensibilità, a partire da Fabrizio Barca, che era allora il trade union tra il Ministero delle Finanze e l'OCSE, sì, da Francesco Profumo, che era il Ministro della Ricerca allora, sì, da Gianni Chiodi, che è il Presidente della Regione Abruzzo, ma anche dalla Maria Chiara Carrozza, che allora come Rettore del Sant'Anna, non ancora Ministro, appunto appoggiò questa iniziativa. Realizzata alla fine, ricordiamolo, anche con fondi, con quali fondi? Ma il finanziamento viene dal rilancio dell'economia aquilana, sì, quindi fondi del governo sostanzialmente, e dai però fondi regionali, sì, della regione Abruzzo, che sono fondi europei dello sviluppo messi a disposizione per questi progetti. Fondi per una volta spesi bene, che effetto le fa vedere invece pubblicate sui giornali queste, sì, in prima pagina, le intercettazioni che nascono dalle inchieste sulla ricostruzione e su quanto è successo, tangenti per la ricostruzione, tutto quel malaffare terribile? Puoi immaginare che questo non è che aiuti ad avere, come dire, uno stato d'animo positivo, sì, però tutto sommato abbiamo veramente da fare un progetto importante, e quello scintillio che vedo negli occhi dei nostri allievi che vivono in questo istituto, che stanno soffrendo delle lezioni di questi docenti e che pensano al loro futuro, questo è veramente una grandissima gratificazione. Un particolare che, diciamo così, positivo oltremodo è questo, sì, noi pensavamo, facendo venire questi studenti da tutte le parti, vengono dall'Irlanda, dalla Turchia, dalla Germania, dall'Iran, voglio dire, pensavamo adesso questi arrivano all'Aquila, trovano la città terremotata, quindi sì, con la zona rossa, col centro storico, e magari ci dicono: ma dove ci avete fatto venire? E invece, con nostra, devo dire, positiva sorpresa, sì, trovano che in qualche modo il loro ruolo è a questo punto duplice, cioè non è solamente quello di formarsi in un ambiente interdisciplinare, ma è anche la consapevolezza di poter fare qualcosa per una città. Ridare vita a una città che stava sprofondando, non e solo letteralmente, ma anche metaforicamente. Un valore aggiunto anche per questi studenti che sono arrivati lì da voi, a Gran Sasso Science Institute. Pronunciato bene stavolta? Perfetto. Grazie Eugenio Coccia per essere stato con noi, in bocca, prego, al lupo, e complimenti per questa iniziativa. Ripeto, il direttore del Gran Sasso Science Institute, nato 4 anni dopo il terremoto dell'Aquila, anche come centro di eccellenza, anche però per rivitalizzare il territorio dell'Aquila, che dal punto di vista scientifico aveva già qualcosa da dire, ma adesso c'è una pagina in più. 800 24 0024, torniamo tra pochissimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Yeah. Eccoci qua, buongiorno Carlo Gabardini, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Tutto bene? Sì, sì, molto bene direi. Sì? Ma sì. Io un po' meno, hai visto che grana che mi ha creato? Ecco. In Italia? Sì, no, ecco, allora scusa. Con i tuoi racconti. Sì, l'ho visto, l'ho visto. No, in realtà per quello sto malissimo. Volevo, pensavo di dissimulare, ecco. Penso che sia il mio ultimo giorno, volevo salutare. No, vabbè, abbiamo una precisazione da fare perché abbiamo parlato. Tu hai parlato di questa incresciosa vicenda della lunga attesa e giù telefonate, perché naturalmente quando si parla dei ritardi dei treni è un tema che apre delle porte apertissime. Però soprattutto per l'Italia, ho twittato molto mentre stavo prendendo il treno da Roma per venire qua in trasmissione. Questa è una in delle, tempo è una delle forze dei social network, sì, che fa dilagare, sì, notizie magari sulla base anche della arrabbiatura del momento. La precisazione di Trenitalia è che tu ieri hai detto che hai preso un biglietto e non hai potuto cambiarlo perché sei arrivato in stazione con un'ora e mezza di anticipo. Esattamente. E loro dicono: guarda che tu hai comprato un biglietto economy, se volevi fare questa cosa devi prendere un biglietto che costa un po' di più ma che ha questa flessibilità. Quindi sei, certo, tu che hai sbagliato, Carlo. Anzi, sì, la produzione, no, o chi è che, sì, ha fatto il biglietto? Allora, la questione secondo me, intanto questo qui era un biglietto economy che costava 79 euro, sì, e che poi per fare il primo cambio era diventato di 100 euro, ecco. Quindi questo, diciamo, è un biglietto tecnicamente a prezzo pieno, ma non, no, anzi no, non dico tecnicamente, ok, è questo tipo di biglietto qua e quindi diciamo che non mi sembrava particolarmente economico. Ma la vera questione è al di là di questo, perché se, sì, c'è da rifare il biglietto ci mancherebbe. Io quello che contestavo, siccome non è che sia proprio un nemico di Trenitalia, devo essere onesto, nel senso che io piglio un sacco di treni, non ho la patente, sono un ottimo cliente di Trenitalia. Quello che contesto è che nel momento che io ho un biglietto per le 8:20, sì, sono davanti al treno ed era il treno delle 19, io ero lì alle 19:20, farmi salire su quel treno che ha dei posti liberi, se io fossi il padrone di Trenitalia, certo che mi farei salire, per il semplicissimo fatto che mi rimane un biglietto delle 8:20 che ho già venduto, che in realtà posso ancora vendere, mentre su quel treno lì nessun altro può salire perché dopo 3 minuti il treno sarebbe partito. E il concetto è questo, e siccome loro giustamente nella mail che mandano un punto di flessibilità in più che potrebbe andare anche a vantaggio della compagnia, in questo senso. Poi è chiaro che uno non può cambiare innumerevoli volte, però non è una questione di rispetto di chi ha pagato di più il biglietto, perché non dà mica fastidio a quello che ha pagato il biglietto se io prendo un posto che è libero. È sicuramente il fatto, è semplicemente nei pochi minuti prima che il treno parta, dove nessun altro può salire sul treno. Io devo dire che non è che abbia molto da aggiungere, perché sarà che ho una bambina piccola, ultimamente il treno lo uso poco e quindi non so neanche bene queste tariffe come funzionano. Però io lo uso credo tantissimo, che abbiamo precisato abbastanza tantissimo. E tra l'altro, guarda, se posso fare un ultimo, sì, benissimo complimento anche a Trenitalia, in realtà, sì, una roba che per anni non si riusciva a fare, che era l'andata e ritorno in giornata, che, sì, è molto scontato ed era assolutamente immodificabile. Adesso si può fare, adesso si può modificare con una procedura che non è ancora, che io non ho ancora capito con precisione. Vedi che piano piano. Poi, esatto, loro ci ricordano anche che c'è concorrenza, perché da 2 anni in alcune tratte, soprattutto con l'alta velocità, c'è la concorrenza di un'altra compagnia, e questo fa bene, la concorrenza fa sempre bene. Adesso, esatto, adesso però Guarda, ti dico una notizia che mi ha colpito, che tra l'altro è legata, se vogliamo, a tutto questo. L'aereo, hai preso l'aereo? Perché, no, anche perché io ho paura di volare, quindi figurarsi se non uso Trenitalia. Ma comunque, una notizia che è legata al mondo, visto che tutta questa vicenda nasce anche dal fatto che io sia sul mio account Twitter, sia sul mio account di Instagram, ho twittato perché avevo 101 persone davanti a me in coda a stazione, sì, Termini. Quindi una notizia che parte, diciamo, dai social network, che riguarda una decisione presa dal basso, dal popolo, che diciamo riesce per una volta a far cambiare idea ai vertici. Non sto parlando di grillini, non sto parlando di legge elettorale, di Forconi, di cose serie, no. No, esatto, sto parlando di gelato, ovvero il Winner Taco. Il Winner Taco è un gelato che Algida Mise inventò, diciamo, alla fine degli anni 90, dopo pochi anni uscì di produzione, e iniziarono delle proteste abbastanza accese, perché tutti volevano questo Winner Taco e lo volevano indietro. Non è che dopo aver fatto casino con Trenitalia adesso facciamo casino anche con Algida? No, spero di no, anche perché c'è anche una dichiarazione del loro marketing manager. Quindi, e poi è una storia a lieto fine questa, assolutamente. Benissimo. La cosa bella è che queste proteste, finché tutti protestavano, Algida non è che abbia fatto niente, abbia rimesso in produzione, finché a un certo punto nasce Facebook, visto che spesso si dice stai troppo su Facebook, stai troppo su Twitter, quelle cose non servono a niente, i social non servono a niente. Questo è un caso in cui in realtà i social hanno servito, e come, ecco, poi ci possiamo interrogare quanto sia nobile la causa di riavere indietro un gelato, ma comunque questi non direi due proprio nobile, esattamente, però intanto iniziamo a creare un precedente dove sono i social a modificare la produzione di una multinazionale. Quindi Alessandro e Daniele nell'aprile del 2011 hanno fondato una pagina che si chiama Ridateci il Winner Taco, che è diventata subito molto famosa. Dopodiché questi ragazzi e un piccolo esercito che a un certo punto è diventato adesso più o meno di 10.000 persone, sì, hanno iniziato a bombardare tutte le operazioni social, diciamo, di Algida e la pagina ufficiale di Algida, boicottando anche le loro, dicendo noi rivogliamo il Winner Taco, vogliamo un Winner Taco. E sono riusciti o no? Sono riusciti finalmente, addirittura Algida ha chiamato prima questi ragazzi, sì, per avvisarli la sera prima, e adesso il Winner Taco torna in produzione, tanto che a Roma hanno installato un gigantesco Winner Taco. Secondo me questa è un'invenzione della Algida, spettacolare. È esattamente quello che molti si sono chiesti. Loro dicono assolutamente non è, devo dire che è difficile per due motivi che siano operazioni. Poi io non lo so, un po' perché questi hanno boicottato, nel senso che tutte le volte che Algida usciva su Twitter, insomma, li attaccavano e chiedevano il Winner Taco. E poi perché è un'operazione che parte veramente da lontano, perché all'inizio del 2000 già iniziavano le proteste. Poi quanto loro l'abbiano cavalcato o meno, il loro manager dice noi questa cosa non l'abbiamo fatta. La vera cosa che apre probabilmente un precedente affinché adesso qualcuno potrebbe iniziare a pensarci invece di creare, ma questo avviene. Altre pagine lo scopriremo, insomma. Sì, altre pagine per altri prodotti. Per uno altri dice prodotti. Ci chiedono moltissimo la cera per capelli, e invece in realtà non ne frega niente a nessuno, e loro dicono guarda quanti siamo già in 7. Poi comunque devi convincere 10.000 persone, perché è questo, che poi se 10.000 vanno su Facebook in realtà sono molte di più quelle che senti, volevano il gelato indietro. Hai altro? Perché poi dobbiamo lanciare anche il concorso, il personaggio della settimana. Allora forse non c'è tempo, ma ha fatto ridere, allora, sì, va bene, dimmi. No, vediamo. Ha fatto ridere una notizia, sì, che Ken Sullivan è un ragazzo che ha presentato la sua domanda per un viaggio di sola andata su Marte. La buona notizia è che la sua richiesta è stata accettata. La cattiva è quella che sua moglie ha chiesto il divorzio. A questo punto io sono andato a rileggere, adesso la faccio molto breve, sì, perché questo piano esiste veramente, la notizia non è di ieri, è da un po' di tempo che c'è, e è questa compagnia olandese che ha deciso di organizzare un viaggio su Marte per si partirà nel 2022, un viaggio di sola andata, perché bisogna andare a colonizzare il pianeta rosso. E uno dice vabbè, ma chi è che si iscriverà per questa cosa? Nell'ambito della follia, credo. 200.000 persone hanno fatto richiesta da tutto il mondo, da 140 paesi. Sì, voglio dire, dal 47.000 americani agli 8.000 inglesi, ai 2.000 italiani, no, che hanno fatto questa richiesta. È inquietante questa cosa, il viaggio di sola andata. È questo, infatti io è per questo che mi ha fatto ridere la notizia della moglie che chiede il divorzio, perché devo dire che all'inizio uno dice ma come, stai tarpando il sogno, sì, di tuo marito. Ma il signor Sullivan ha fatto richiesta per se stesso, quindi o presume che nel 2022 sua moglie e la sua famiglia siano tutti morti, sì, oppure in pratica è lui che ha già chiesto il divorzio, semplicemente se un po' cara vado a comprare le sigarette, adesso, cara vado su Marte. Esatto, non so se si può considerare una relazione a distanza quella, diciamo, Gran Bretagna Marte. 800 24 00 24, cari ascoltatori, raccontate che cosa ha reso bella la vostra settimana, se volete, come ogni sabato e ogni domenica. Però oggi i biglietti della mostra di Munich vanno a chi indovina il personaggio della settimana. Esattamente. Che questa settimana è un personaggio femminile. E questa è già un'indicazione, il primo indizio. Abbiamo fatto quasi tutti uomini fino ad ora, e quindi adesso ci siamo allargati un po'. Giustamente, era anche l'ora. Assolutamente. 800 24 00 24. Quindi questo è il primo indizio. A tra poco con gli ascoltatori. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa' canuto de cachés. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. ¡No china! Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa' canuto de cachés. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legalito de Vabbè, si capisce abbastanza, no? Questo legalizzazione di questo, si capisce molto gruppo bene spagnolo, perché è una delle notizie della settimana. Forse doveva essere il personaggio forse della settimana. Però non è un personaggio in carne ed ossa, era la cannabis, no, perché io non posso dirla questa parola, che magari mia mamma in ascolto, io non posso proprio dirla questa parola. No, ma come cronista in luce, come stagista opinionista di Radio 24 si lo può dire, certo. Ah, allora la canna, certo, volevo dire, mamma, la canna, ma sono un giornalista, è un fatto professionale. Ne parliamo come di un oggetto di interesse, perché sapete, a Torino è stato votato un ordine del giorno, una delibera, non si sa esattamente che cosa, un regolamento, ed è questa un po' anche la curiosità che ci spinge un po' a tornare su questo argomento che, di cui si parla ricorrentemente. Però vogliamo tornare a Torino con il consigliere comunale di SEL, Marco Grimaldi. Buongiorno. Buongiorno. Forse l'ideatore di questa delibera, o che cosa, un ordine del giorno, che cos'è che avete votato esattamente? Sì, sono delle linee di indirizzo, un ordine del giorno verso il Parlamento e verso il governo. Uh-huh. E nelle quali chiedete che cosa? Intanto chiediamo l'abrogazione della Fini Giovanardi, è una legge che di fatto superi l'impianto proibizionista di questa legge. E sostanzialmente chiediamo al Parlamento di iniziare intanto con una vera depenalizzazione del consumo, che vada anche fino alla detenzione, come perché questa è un po' la contraddizione della legge attuale. Ecco, ricordiamo cos'è che è consentito e cos'è che non è consentito oggi per quanto riguarda le droghe cosiddette leggere, cioè la cannabis e la marijuana. Sostanzialmente, se voi due ieri notte foste stati controllati dalla polizia, qualora aveste avuto in mano quella famosa canna, probabilmente non vi avrebbero fatto niente. Ma perché fai l'esempio su noi due, scusa? Ma a caso, mamma, così a caso. Che è illegale, lo sai che io non la compro se è illegale. Appunto. Ma è proprio quello il punto, no. Che se voi l'avete in qualche modo comprata illegalmente, non dovreste subire nessun processo. Posso che qualcuno anche subito processi anche per questo, ma se invece sempre voi due producete due o tre piantine nei vostri cari balconi, rischiate dagli 8 mesi all'anno e mezzo, insomma, per detenzione. Quindi se io ho una canna e ho comprato il fumo, la marijuana, ovviamente illegalmente, non è vecchio, questo lo posso fare, mi beccano con la canna, non succede nulla. Se invece ho una piantina sul terrazzo, ma qual è il limite però? Addirittura spaccio. Cosa succede se ho la piantina sul terrazzo? O detenzione o addirittura spaccio, qualora provino che queste sostanze non siano usate solo per... Ma qual è il limite, diciamo, del cosiddetto uso personale? Ma il limite è appunto il fatto di aver possedere la famosa canna. No, ma ho capito, ma la canna non è un'unità di misura. Ma diciamo che sono... Perché io se no mi faccio una canna da 6 metri... Diciamo che sono sul grammo, il grammo e mezzo, ma ci sono anche, vedete, il problema, quando mi dicono guardate che voi avete dato un messaggio sbagliato ai ragazzi, e rischia di dare l'impressione che poi la droga sia libera e accessibile. La droga è il primo prodotto della globalizzazione, è libero e accessibile. Oggi forse voi potreste trovare un litro di latte anche a mezzanotte, alle 2, perché ci sono i distributori automatici. Per la droga questo tipo di concetto vale da anni, nel senso che sono presenti H24 in migliaia di piazze, strade. Beh, poi dovresti fare l'esempio contrario, nel senso che la droga la trovi alle 3 del mattino e il problema è alle 3 del pomeriggio, semmai, giusto? non lo so, io credo che si trovi anche alle 3 di pomeriggio. Però il problema più grande è, secondo me, uscire da questa concezione anche della Fini Giovanardi, che ha paragonato le droghe pesanti e le droghe leggere. Tra l'altro, con questo concetto proibizionista spesso ci troviamo, e questo ce l'ha ricordato anche il Presidente della Repubblica, lo stesso Papa, con delle carceri strapiene, tra l'altro, di perché è vero, cioè che percentuale tutto devono stare meno che lì. E che percentuale, Grimaldi? Un terzo delle persone in questo momento detenute in Italia fanno uso di sostanze stupefacenti o sono tossicodipendenti? No, al momento, il fatto che facciano uso... E quante persone sono in carcere per motivi... Ma anche dentro il concetto di questo tipo di legge, in cui quelle persone dovrebbero intanto stare tutto meno che in quelle carceri. Mentre se mi state chiedendo quante sono dentro per, appunto, piccolo spaccio, detenzione, credo che siano un migliaio di casi. Non sono tantissimi, ma non sono neanche pochi. Marco Grimaldi, consigliere di SEL, resta con noi se vuoi. Ti stiamo dando il tu forse per una questione generazionale. Perché scusa, anch'io mi sono permesso. È un consigliere comunale, quindi dovremmo rivolgerci con più deferenza forse. Posso dire che è difficile parlare di cane dandosi del lei, però poi va bene tutto, eh. Ma se vuoi parliamo anche di e qui stai svelando tutta la tua confidenza con questo mondo. Ma assolutamente no, io parlo A di cane da pesca e B stiamo parlando, quindi 800 24 00 24, vorrei naturalmente sentire anche cosa ne pensano gli ascoltatori, perché c'è un altro tema di sottofondo che credo che rientri anche in questa linea guida che avete votato voi, che è quello dell'uso terapeutico, che invece è un'altra cosa abbastanza seria. C'è notizia credo dall'America in questi giorni, ma c'è il Veneto, la Toscana e altre regioni. Traffico. Si può fare cronache da un paese migliore. Ora non vorrei esagerare, però non so se avete visto, qualche settimana fa le Iene sono andate in le Iene, quelle di Italia 1 in Spagna, a vedere come giovani italiani si occupano proprio di questo settore economico merceologico, la produzione di marijuana in coffee shop, dove la gente va tranquillamente a fumare, così come si va in un'enoteca a bere un bicchiere di vino. È tutto normale, tutto regolare, non c'è sballo. Sì, un po' di sballo c'è, ma come ci può essere la sera in birreria, stessa cosa. Allora, visto che la disoccupazione è alle stelle, potrebbe essere questo anche un piccolo di nicchia, per l'amor del cielo, ma settore nel quale anche far lavorare delle persone, dei ragazzi, anziché darlo in mano a, come è stato fino ad oggi, alla criminalità organizzata. Io credo che questo sia una cosa seria, non è una stupidaggine. Stai proponendo di coltivare a marijuana Piazza del Duomo? Ecco, questa magari è una cosa un po' meno seria, però non Piazza del Duomo, però c'è un grande parco agricolo, per esempio, a sud di Milano. Perché non fare dei pezzettini di questo? 800 24 00 24, provocazione o no? Io non credo che sia solo una provocazione, però dicevamo con Marco Grimaldi, consigliere di SEL a Torino, ideatore di questa iniziativa che viene, perché poi tutti hanno parlato, Torino legalizza la marijuana, però non è così. No, non è così. Torino non è come Amsterdam, il Piemonte non è né come l'Uruguay. Allora, diciamo che però intanto è un primo approccio. Purtroppo non posso seguirti sulla scia dell'agricoltura, perché sono anche il proponente della delibera sugli orti urbani e molti adesso mi spottano dicendo: ah, ecco cosa avevi in mente. In realtà non volevi convertire 2 milioni di metri quadri per uso agricolo, in realtà volevi... Scherzo. Comunque, io credo che sia questo tipo di impianto deve prevedere prima la depenalizzazione, poi la possibilità di possesso e produzione, sì, fino a queste famose 2 piantine, se questo, diciamo, è il limite, e poi possibile anche la distribuzione tramite il monopolio di Stato, anche con modelli, come stavate dicendo, cooperativi, che possono produrre anche ovviamente occupazione. Parliamo di dati, tra l'altro, studiati dalla Sapienza, sì, di Roma. Beh, saranno piccole cose. Il professor Rossi, sì, che dice che potrebbe generare, ecco, intanto un fatturato sui 15-20 miliardi, entrate per lo Stato tra i 5 e gli 8 miliardi e comunque anche migliaia di posti di lavoro. Per una cosa, diciamo, faccio giusto questo inciso per gli ascoltatori che naturalmente storcono il naso e ci sono, giusto o sbagliato che sia, per una cosa che non uccide, non è questo, non è la droga che uno si inietta, si fuma una canna e muore, o cavolate di questo genere. Siamo allo stesso livello dell'alcolico, del vino, o forse del superalcolico, che è tolleratissimo e che è usatissimo anche troppo. Forse le canne da questo punto di vista sono anche meno nocive. Certo, poi non si deve mettere in macchina se si è fumato 2 canne, però questo vale anche per il vino. Ci sono dei limiti, meno paura, sì, il ragazzo che vuole fumarsi questa canna alla luce del sole che chi invece nel buio delle segrete stanze anche del potere dimentica che cos'è l'uso di droga in questo paese e dimentica il fatto che ci sono anche centinaia, sì, di migliaia di consumatori di droghe pesanti che ogni giorno mettono anche a rischio la nostra vita. E guardate che i dati sono inquietanti sul consumo, eh. Chi fa uso di cocaina lo fa dalle sale chirurgiche del nostro paese fino a fare lavori molto più pericolosi anche per la vita degli altri, e non sto parlando solo degli autisti, e non sto parlando solo dei camionisti, e non sto parlando solo che di cui guida cose ben più importanti per questo paese. Se posso aggiungere una cosa, in realtà, in più, siccome si dice spesso, uno passa dalle droghe leggere alle droghe pesanti, in realtà nel momento che uno non lo fa attraverso, appunto, non è più illegale, è più difficile che uno entri in contatto con chi vende invece le droghe pesanti, perché molto spesso, certo, invece sono le stesse, certo, persone, quindi, che vendono sia uno che l'altro. Esattamente, se ho bisogno di quello poi mi viene offerto anche quell'altro, quindi in realtà a Giovanardi su questo è speciale, ogni volta che ci incontriamo dice: ma lo sa che poi dallo Spinello, perché lo sa, perché tu e Giovanardi avete un dialogo su questo, ormai, speciale, ormai, e lui sa che la tua battaglia è su questo e lui è contrarissimo, quindi ingaggiate dei duelli. Ma io adesso ho 33 anni, però mi ricordo due, sì, grandi momenti ancora in questi 15 anni ormai di vita politica. Intanto mi ricordo il congresso dell'Ingotto, dei DS, io ero segretario della sinistra giovanile, e allora fu approvato un, sì, ordine del giorno per la legalizzazione, poi non ce ne fu più niente, non se ne fece più niente. Vabbè. E poi invece qualche anno fa un'altra proposta, sempre in consiglio comunale, ero ben più giovane, ho 26-27, sì, anni, e ho proposto delle linee guida molto più complesse che prevedevano al 32esimo punto anche la sperimentazione a Torino delle sale del consumo, e soprattutto per le droghe più pesanti anche quelle che poi sono state chiamate in qualche modo stanze del buco, anche, sì, propriamente, no? Adesso quelle è passata una cosa un po' più blanda, direi, e però hai trovato, sì, il consenso, sì, di una, però io, di una maggioranza. Guarda, io credo che ci sia sempre un po' sempre di ambiguità. Io credo che giusto o sbagliato non possa essere reato, e dall'altra che la riduzione del danno deve essere parte delle politiche di contrasto. Va bene, va bene. Ci dobbiamo fermare qua. Grazie mille a Marco Grimaldi, consigliere di SEL di Torino. Questa era l'iniziativa. Grazie. Adesso, però, prima di dare la linea, grazie mille anche a voi. Ciao, buona giornata, buona domenica al giornale radio. Io vorrei sentire almeno un ascoltatore. All'800 24 00 24 c'è Mariangela che ci chiama da Treviso. Buongiorno, Mariangela. Buongiorno, buongiorno. Pensando, avete, sì, detto che è una donna? Sì, il personaggio, sì, della, sì, settimana. Io pensavo alla ex premier Dam, sì, Alex Premier Dam, come che Valerie, personaggio che è, come dire, è stato sulle prime pagine senza essere sulle prime pagine, non so, sì, senza, sì, nessun, sì, altro merito. Beh, fra l'altro lei dice ex, ma non è ancora chiaro se è ex o non è ex, siamo sulla, beh, strada, dipende, dell'ex, dipende da quanto pelo sullo stomaco c'ha lei. No, ma anche da quanto l'Eliseo tollererà di avere a sue spese, sì, una signora che non è più la compagna del presidente. Non però tutti, Mariangela, grazie, non grazie, Mariangela, arrivederci, grazie, perché il potere manda giù qualsiasi cosa, insomma, ecco. Non è la Premier Dam, dobbiamo chiudere. Purtroppo. 800 24 00 24. Più avanti continueremo col concorso. Si vincono i biglietti della mostra di Munich. Dopo il giornale radio, però. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Beh, ritrovati, cari ascoltatori, così siamo cascati nel silenzio senza colonne sonore. 800 24 00 24, ben ritrovati da Alessio Maurizi. E Carlo Gabardini. Se volete interagire, eri un po' in sottofondo, intubato. Se volete Carlo interagire Gabardini con noi, il nostro account su Twitter, Ale Maurizi. Il mio è ancora Carlo Gabardini. E poi si può fare 24 l'account del programma. C'è qualche messaggio, qualcosa che vogliamo segnalare, Carlo? Su Twitter ci scrivono qualcosa stamattina. No, dormono tutti. No, c'è un SMS che dice: chi si droga ha problemi esistenziali. Per risolverli non sarebbe meglio rivolgersi al medico, il quale eventualmente prescriverebbe un uso sostenibile di tali sostanze? Beh, ora la premessa chi si droga ha problemi esistenziali mi sembra un po' esagerata. Diciamo, è un perimetro, quello dei problemi esistenziali, anche che perché è più largo di quello di chi fa uso di droghe. E d'altra parte, chi usa le droghe non è detto che abbia per forza problemi esistenziali, magari sta benissimo. Ma lo dirà Bacco, diciamo, insomma, esatto, è dalla notte dei tempi, nel senso che droga. Dopodiché, alcol, sul fatto che il medico possa prescrivere quote sostenibili di sostanze stupefacenti, non è mica una baggianata. no. Si rientra nel caso dell'uso terapeutico, no? Da un certo punto sì, di vista. Sì, però l'uso terapeutico di sì. solito almeno è molto legato alle malattie terminali, sì, o come antidolorifico finale, se vogliamo. Questo dimostra che c'è un mondo da esplorare e che fino ad ora in Italia è stato poco o per niente esplorato. Abbiamo qualche ascoltatore, ricordiamo anche l'indizio per il personaggio della settimana. Che questa settimana abbiamo detto è una donna. Esattamente. Perché non è un uomo in questo caso. 800 24 00 24, si vincono i biglietti per la mostra di Edward Munch a Genova. Abbiamo Dante che ci chiama da Ascoli, buongiorno. Buongiorno, senta, buongiorno. Io già so di essere fuori strada. Sì. Comunque in anticipo volevo complimentarvi per la trasmissione. Grazie. È interessante, che seguo. E niente, sono fuori strada, ho provato a dire Zichichi, perché si è parlato dell'Aquila, del centro di ricerca di Gran Sasso. Ah, come personaggio Zichichi? Diciamo che essendo una donna come donna Zichichi non la vedo benissimo. Provi un nome di donna a questo punto. Nome di donna posso dire la senatrice Mezzopane, la parlamentare. Ah, perché lei rimane sempre nell'area un po' dell'Aquila, della notizia, perché noi siamo partiti dall'inaugurazione del laboratorio dell'istituto di scienze del Gran Sasso, Eugenio Coccia. Vabbè, bella, prova a sparare bella altro. Dante, non è che lei ne può sparare troppe, cioè già gli abbiamo concesso una seconda. Sì. Perché era talmente fuori strada con la prima che... Però se ha davanti le pagine regionali, secondo me può anche spararne un'altra, forse. No, stavo scherzando. Voleva dire qualcos'altro o ci salutiamo qua? No, volevo provare il concorso. Grazie mille. Grazie mille, buona giornata, buongiorno. Buona domenica. Daniela da Trento, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Qua. Io volevo solo parlare della marijuana e della legalizzazione. Posso? O bisogna certo. partecipare per forza al concorso? No, lei può dire, può commentare tutto quello che vuole, prego. Daniela. Mi piacerebbe che l'argomento relativo alle droghe leggere venisse trattato attraverso i numeri, perché io mi permetto di essere prudentemente a favore della libertà, della liberalizzazione dell'uso delle droghe leggere. Mi sembra che non siano stati ottenuti grandi risultati fino ad ora, e tra l'altro mi sorprendo sempre, perché si dice sempre che si è intimoriti dal messaggio che si può lanciare ai giovani liberalizzando l'uso delle droghe. Io posso testimoniare che quando ero ragazzina non ho mai avuto contatto con la droga, e adesso che sono adulta incontro sempre più conoscenti o amici che vengo a scoprire che utilizzano tranquillamente, costantemente sì. la marijuana. E non si muore, non succede niente di straordinario. E questo è vero, Daniela, questo che voleva dire, cioè che la sua esperienza numeri, è positiva. I numeri, anche per sapere qual è l'influenza sul narcotraffico, mi piacerebbe di più sapere davvero che cosa succede al narcotraffico se si legalizza l'uso delle droghe leggere. Va bene, Daniela, noi abbiamo fatto un'intervista col consigliere di SEL Grimaldi, qualche cifra da data, non è che siamo entrati molto. Beh, il narcotraffico diciamo che ci resterebbe molto molto molto male, perché è un bel pezzo quello, e soprattutto è capillare ed è un po' il primo incontro fra poi, il narcotraffico, Carlo, è vero, cioè, e i ragazzini. Cominci spacciando magari la marijuana e il fumo, poi puoi passare sì, a vendere altre merci. Non sto dicendo che chi fuma le canne poi sicuramente si droga, che è una teoria assurda. Magari sono gli stessi, questo sì. Vogliamo sentire anche Dino da Roma, buongiorno Dino. Buongiorno, buongiorno. Eccoci. Senta, io volevo intervenire anch'io soltanto sulla droga, non indovinare il personaggio. Sì. Io credo che il compito di voi giornalisti sia quello di fare chiarezza, quindi vi prego di fare questo, anche perché ho un ragazzo di 13 anni, quindi devo pensare al suo futuro. La prima cosa che vorrei capire, io ricordo qualche anno fa che uscì una pubblicazione scientifica, quindi non ricordo su quale rivista scientifica, che mostrava proprio una fotografia dei danni cerebrali prodotti dalle droghe leggere a lungo termine. Ora, se questo è vero, io credo che non si possa parlare di liberalizzazione, non si debba parlare di liberalizzazione. Quindi il primo punto da fare è la chiarezza sul danno che effettivamente... Ma io guardi, è che il danno cerebrale viene provocato da un sacco di altre cose, per esempio l'alcol assolutamente ha... Vabbè, ma non è che stiamo facendo... Allora l'alcol è già liberalizzato, però appunto, lui fa male. Quindi... Le droghe leggere a lungo termine... Io guardi, ho fumato per 30 anni e ho smesso ormai da 20. Ma sì, stiamo parlando di sigarette? Stiamo parlando di sigarette. Ho capito, sigarette. Però non è che un conto è vietarle, un conto posso è dire... dire che faccia bene, cioè i danni provocati da certe cose. Scusi, Dino, però. Ma il fatto che non faccia bene, nel senso che neanche mangiare 600 würstel con la maionese fa bene, il problema è se renderla legale o illegale. Lei giustamente dice: io ho fumato, penso che faccia male. Insomma, questo qua già è molto giusto ed è di sensibilizzare su rischi che ci sono, no, su un sacco di cose. È un altro, vietarle... non è che io lo posso fare e l'altro può non farlo ed è libero di farlo, su quello siamo d'accordo. Sì. Dobbiamo chiarire se i danni cerebrali pesanti ci sono a lungo termine o no. Va bene, Dino, io non lo so. Sì, sì, abbiamo... rivista scientifica, scusi. Sì. Io avevo visto immagini dei danni cerebrali prodotti dalle droghe leggere a lungo termine. Ho capito. Grazie, Dino, le dico quello che penso io. Le dico quello che penso io. Credo che si sa, insomma. Non mi risulta che ci sia una letteratura scientifica di certezza su questi danni cerebrali, perché altrimenti non staremmo parlando in molti paesi di liberalizzazione e del fatto di usarla addirittura a fini terapeutici. Dopodiché, lei ha fumato per 30 anni, invece si sa che il fumo delle sigarette provoca il tumore ai polmoni e guarda caso le sigarette sono vendute. No, e soprattutto se posso aggiungere sulla questione delle sigarette, che è molto corretto, nel senso che è giusto dire che fumare fa male, ma secondo me sarebbe peggio se uno per fumare deve entrare in contatto con degli spacciatori, cioè per fumare le sigarette, che appunto come lei dice, lei le ha fumate e anch'io fumo le sigarette anche se ho smesso e voglio continuare a non fumare, se io per comprare le sigarette devo andare di notte nelle stazioni dei treni per comprarmi mezzo pacchetto di sigarette, entro in contatto con della criminalità molto peggiore che se io invece posso andare dal mio tabaccaio che è simpaticissimo, mi vende anche il giornale. 800 24 00 24, mi sa che tra poco dobbiamo dare un altro indizio per il personaggio della settimana, perché per ora siamo lontani. Beh, a parte Zichichi, siamo molto parchi, devo dire, noi siamo molto parchi di indizi, perché abbiamo detto semplicemente che è una donna, poi dall'altra parte diciamo è anche più difficile, nel senso che se indizio dato donna, risposta data Zichichi, forse chiudiamo qui. Esatto, dobbiamo ricominciare tutto da capo. Diciamo anche, lo diamo un altro indizio, è straniera. È una donna straniera. Donna straniera, va bene. Adesso invece andiamo a Frassinoro. I don't see why we can't make it together. Siamo a Frassinoro, in provincia di Modena, per una notizia che ci ha incuriosito. Insomma, ieri per esempio abbiamo parlato con un altro sindaco di un'iniziativa di spending review, si cerca di risparmiare tagliando, si può risparmiare tagliando per esempio dei dirigenti comunali come hanno fatto lì in un piccolo paese, San Giovanni Teatino, insomma tutti questi dirigenti non servivano a un tubo, li hanno spostati nel paese di fianco e risparmiano un sacco di soldini. A Frassinoro invece pensano di poter risparmiare sulla bolletta del riscaldamento in un modo assai originale. Come? Lo chiediamo al sindaco della città, Gianni Fontana. Buongiorno. Buongiorno a lei. Benvenuto. Come volete risparmiare? Noi lo sappiamo, però lasciamo la suspense per gli ascoltatori. Allora, noi vorremmo risparmiare utilizzando dell'energia di scarto di una piccola industria che noi abbiamo. Qui noi siamo un paese a circa 1200 metri d'altitudine. Sì. C'è la neve adesso? No, adesso piove, adesso abbiamo un clima autunnale non invernale ormai da 2 settimane. Cioè piove ma fa caldo, insomma. Sì, piove, ci sono 5 gradi, quindi per noi è caldo. Beh sì, per essere sull'Appennino a 1200 metri in effetti. Per me è freddo, posso dirlo. Comunque, certo che sì. Senta, comunque, sindaco, facciamo una breve pausa per il traffico, perché sennò in regia mi brontolano, e poi torniamo e ci racconta tutta la storia. Si può fare cronache da un paese migliore. C'è un SMS per te, Carlo. Hai visto? Abbiamo capito che voi vi fate le canne, questo? Sì, sì. Non è per me, è direi voi, mi sembra uno splendido plurale, no, è la prima volta che ci voi mettono insieme. È scritto maiuscolo. Ma no, io non mi faccio le canne, giuro davanti a quello che volete che non mi faccio. Ma perché se una persona ha una posizione favorevole a, che ne so, al matrimonio tra omosessuali devo essere per forza gay? No, sono favorevole alla liberazione delle canne, ma io non mi faccio le canne, ti non applaudo, mi faccio le canne. Eh, però posso pensare a qualcosa anche se non mi riguarda e essere favorevole, cari ascoltatori. Sì, questa è la risposta mia personale, ma abbiamo anche, perché sennò per avere una posizione sui minatori uno devo dire ah, perché tu fai il minatore, in realtà è per quello che vuoi l'assistenza ai minatori, se no dovrebbe parlare di pochissime cose, solo quelle che lo riguardano. Con il sindaco invece di Frassinoro, Gianni Fontana, che ci stava raccontando come e perché questa splendida idea di risparmiare quanto sulla bolletta del riscaldamento. Allora, noi prevediamo un risparmio dell'80%. Sì. E dopo adesso le spiego anche il motivo. Sì. Diciamo, noi siamo arrivati a una sintesi di due progetti che inizialmente erano separati, il nostro dell'amministrazione comunale, che diciamo così aveva predisposto un tipo di riscaldamento con il cipato, si chiama praticamente, che sono delle scaglie di legna. Noi qui abbiamo molte, molte foreste, molti boschi, tantissimo materiale di scarto, sarebbe stato utilizzato per il riscaldamento di un certo numero di edifici pubblici. Sì. La ceramica del nostro territorio, per conto suo, invece stava facendo un progetto di recupero dell'enorme calore prodotto, sì, dai loro forni. E diciamo così, ci siamo parlati, loro hanno una quantità di calore superiore a quella che quello che loro fa bisogno, sì, e quindi gentilmente ci hanno concesso questa opportunità, e loro ci regalano, tanto per essere diciamo così precisi con dei numeri, 670.000 kilocalorie, quando ad esempio il nostro impianto era da 400.000. Carlo Gabardini le vuole fare una domanda forse su questo? Sì, Carlo? Mi scusi, se non è una risposta, sì, perché io non sono un giornalista, ma se non è una risposta troppo tecnica, com'è che funziona? Cioè, com'è che si convoglia, diciamo, questo calore come riscaldamento? Allora, se non è troppo tecnica, mi scusi. Sì, no, ma io comunque, siccome mi sono interessato della cosa, non sono un tecnico di questi argomenti, ma meglio, qualche cosina ho imparato. Praticamente loro scaldano dell'acqua con uno scambiatore acqua-acqua, e noi colleghiamo la nostra centrale, che è già praticamente in opera, nel senso che abbiamo già consegnato i lavori, colleghiamo con due tubi un'andata e ritorno di acqua calda, e questo ci permette di tenere un grande termosifone, nostra, insomma. Esatto, sì, un grande termosifone, un teleriscaldamento che attraversa una certa parte del paese, si collega con la nostra centrale, che ha già una diramazione che riscalda tutti gli edifici pubblici che sono a poca distanza l'uno dall'altro, e un grande termosifone, un grande circuito, certo, d'acqua calda. E loro questo calore lo produrrebbero comunque, perché lo usano per la loro produzione industriale, giusto? Certo, sì, andrebbe disperso, andrebbe disperso nell'aria. Disperso. Ho capito anch'io. Ve la cedono gratuitamente, ho capito bene, o c'è anche un guadagno da parte dell'azienda di qualche tipo? No, fate uno sconto. La cedono gratuitamente. Bene. E diciamo che è stato un'intesa tra l'amministrazione e questa azienda qui, perché comunque noi siamo riusciti a concedere loro l'utilizzo della nostra argilla, della terra che, sì, era qui nel nostro territorio, quindi loro utilizzano materiale a chilometro zero praticamente, e vogliono restituire alla popolazione un vantaggio economico sotto forma di, certo, questo tipo di... Perché questo è anche distretto della ceramica, non proprio distretto, sì, forse siete un po' periferici, però siete comunque nella zona dove va forte questa industria, perché non tutti possono farlo, evidentemente, nel senso che se sei in una zona in cui si produce il pachino probabilmente non ci sono fabbriche che producono tanto calore, però è ottimo, è giusto occuparsi di quello che c'è e organizzarsi. Senta, sindaco, ma quanto risparmiate in bolletta, lo sapete? Ma noi risparmierete? Sì, se lei sta parlando di euro, sì, prima, sì, anche di lire se vuole. No, ormai abbiamo la mentalità in euro, quindi si fa fatica a tornare a fare io moltiplico calcoli sempre ancora per 1936, però ho capito. C'è l'unico che lo fa, sì, perché ormai non lo fa più nessuno. Ma quanti euro pensate di risparmiare? Allora, noi dipendentemente dall'inverno, perché ad esempio questo, sì, è un inverno caldo, per cui noi spendiamo circa tra i 60 e i 70 mila euro di riscaldamento tra edificio municipale, scuole medie, elementari, sede della Protezione Civile e sede dei Vigili del Fuoco. Sì. E noi crediamo che andando a regime in questo modo qui, pensando che comunque l'azienda durante il periodo di Natale rimane chiusa, quindi lì dovremo accendere la nostra caldaia, crediamo di risparmiare intorno ai 45-50 mila euro. Oh, che bello. Senta, l'ultima cosa, quando quando lei scommette che ci possiamo risentire per dire che questa cosa funziona? Allora, che funziona sicuramente il prossimo inverno, nel senso che i lavori vengono fatti durante il periodo primaverile, ci sono già tutte le intese. Certo. Per dire, per quello che riguarda la nostra, abbiamo già iniziato, per cui entro maggio dovrebbe essere concluso questo lavoro. Il collegamento con loro, abbiamo fatto un incontro giovedì scorso anche con i nostri tecnici e con i loro, quindi dovrebbe essere previsto nello stesso periodo. Va bene. Chiaramente durante l'estate il riscaldamento non l'accendiamo, allora l'appuntamento è quando accendiamo il riscaldamento, che è circa verso fine settembre. Insomma, diciamo che sarà l'ultimo inverno che dovete pagare tutta questa bolletta da soli, perché dall'anno prossimo sì, ci avrete questo sistema assai risparmioso, e che può essere un'idea anche per tutti quegli altri comuni dove ci sono imprese grosse così che producono tutto questo calore. Grazie Gianni Fontana. Grazie mille. Sindaco di Frassinoro. Un saluto. Complimenti, buona giornata a voi. Complimenti, perché queste storie sono belle, ma tra il dire e il fare poi c'è di mezzo il protocollo, il tubo, in mezzo c'è il tubo, c'è il tubo che porta al caldo, secondo me. E il protocollo, l'intesa, l'accordo, i sindacati, firma, non firma, poi spesso le belle idee muoiono lì, invece c'è qualcuno che pazientemente, tenacemente è vero. Alla fine strappa il risultato. Ma togli una curiosità adesso, sì, tu veramente non moltiplichi più per 1936,27 gli euro per tornare non so più neanche al quanto vecchio fa. Conio? No, assolutamente sì. No. Diciamo che no. Faccio per 2000 dritto, però sì, molto spesso. No, sarebbe troppo frustrante. Sono anziano, non mi ricordo neanche più. No, ma sono anziano anch'io, ma non mi ricordo neanche più com'era il mondo della lira. No, io sì, e quando vedo un panino 4,30 euro dico, però un panino 8.600 lire. Sì, sì, lo faccio ancora. Sono come gli anziani che guardano i cantieri, forse. Leonardo da Bari, buongiorno. Buongiorno, io nella vita faccio il medico e anche il genitore. Bravo. Quindi naturalmente il signore non è molto ben informato. Esiste una differenza tra la legalizzazione e liberalizzazione. Non parla nessuno, sì, di liberalizzazione, che con l'alcol. Stiamo parlando di droghe leggere, Leonardo, perché lei non ha ancora. Io so quello che sto dicendo. Si parla di cannabis, di principio attivo. Siccome ho una esperienza personale qui in Puglia, perché ogni regione fa a sé, è possibile l'utilizzo della cannabis, c'è una legge regionale, per i soli malati di sclerosi multipla. Sì. Ora la formulazione è un lungo discorso, e o sublinguale con dei spray, oppure c'è, posso dire il nome, non c'è nessuna pubblicità, fatta in Olanda, una tisana, si chiama Bedocan. Va bene. Ed è molto efficace, ascolti, non mi scusi, finisco. Sì, sì. Un sindaco di Lecce si è offerto di coltivarla questa canapa indiana, altro che i signori che ha parlato prima. Quindi il discorso è che purtroppo è limitato ai malati di sclerosi multipla. Ci sono persone che hanno l'arto fantasma, cioè con gli arti amputati, che potrebbe avere giovamento da queste terapie. Quindi, siccome sono cose molto importanti, e dire che quello non serve a niente, perché va bene, la sua è una risposta all'altro ascoltatore. Tra l'altro, no, anche a voi, sì, Leonardo, terapeutico. Sì, abbiamo capito. Qual è il sindaco? Scusi, qual è il comune? Lecce? Me lo ricordo, nel Salento. Se voi fate una ricerca in podcast, va bene, la troviamo. Se volete, TG3 della Rai, in podcast facciamo una ricerca. Scusi, se ho fatto su internet, forse va bene. Grazie, grazie, arrivederci. Dunque, dove andiamo? Andiamo Giuseppe, che ci chiama da Roma. Buongiorno. Sì, eccomi, buongiorno a entrambi. Eccoci qua. Buongiorno. Complimenti. Allora, dunque, no, io chiamo per dare la risposta, per provare a dare la risposta del quiz. Rullino i tamburi. E poi, se mi permettete, un commento sulla canna. Sulla canna. Iniziamo con la risposta, vediamo. Ah, ok. Kate Moss. Come? No, Kate Moss. Kate Moss. Perché personaggio della settimana? Beh, vabbè, è una settimana che fa gli auguri, è il compleanno. Mi scusi, me l'ero persa. Era il compleanno di Kate Moss? Sì, beh, non lo sapevo. Il TG24 non fa altro che fare servizi sul compleanno di Kate Moss a Sky TG24. Sì. Ma cos'è, una critica che lei sta facendo a Sky TG24, che parla troppo di Kate? Piccolissima. Vabbè, ha compiuto 40 anni Kate Moss. Comunque auguri a Kate Moss, complimenti per questo traguardo. Non era lei però il personaggio. Ricordiamo, il compleanno è il 16 gennaio del 74. Giuseppe, lei invece voleva fare anche il commentino sulla vicenda della legalizzazione. Il commentino è questo, che rifacendomi a un ascoltatore che ha partecipato prima, anch'io ho avuto la fortuna di studiare un po' neuropsichiatria proprio all'Aquila, tra parentesi, e vedere neurobiologia e vedere gli effetti della cannabis e comunque di queste droghe cosiddette leggere. Premetto che io sono un comunistaccio, quindi dovrei essere... Non è una giustificazione. No, lo dico, lo anticipo. Però ecco, quindi... io ho visto gli effetti, li ho studiati, e sui ragazzi fino a 20 anni è un disastro. Quindi perché poi cosa cambia dopo? Scusi, che cosa ha letto e di che disastro parla? Gli studi scientifici, che non sono miei, ma sono degli scienziati. Sì. E cosa dicono? Fanno vedere come il cervello venga assolutamente bruciato, cioè le sinapsi vengono totalmente annullate, quindi il cervello ha una regressione fortissima. Ma ci deve indicare questi studi, perché in realtà siamo strapieni, siamo strapieni di studi che dicono che addirittura c'è chi dice che non fanno niente, c'è chi dice che vogliamo OPCIT, opera citata. Sì, no, ha ragione. Vabbè, casomai richiamo al prossimo quiz. No, ce la può mandare anche via mail, si può fare Radio 24 oppure su Facebook, si può postare su Twitter, tanto è un link. Va bene. Chiamare anche non per il quiz comunque. Grazie Giuseppe, andiamo. Grazie a lei. Siamo a Roma. Sandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Buongiorno. Dunque, secondo me è Michelle Obama, i suoi 50 anni. Un altro compleanno. Sì. Non è Michelle Obama, non è, anche se devo dire che... È stata in ballottaggio, Per perché è un bel personaggio, ha fatto gli anni e in effetti ci stava, però non era lei. Pazienza. E tra l'altro, grazie. E tra l'altro ne ha fatti pochissimi, si può dire. Ha 50 anni, è giovanissima. Più di Kate Moss. Più di Kate Moss, però è già per il secondo giro la First Lady degli Stati Uniti. Dobbiamo aggiungere un altro indizio? Lo facciamo dopo la pausa? Facciamolo adesso, che così hanno il tempo per chiamare. E qual è l'indizio? Vai. E allora io dico: ama la natura. Il nostro personaggio ama la natura. È donna ed è straniera. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di sentire nuovi ascoltatori con nuovo indizio sul personaggio della settimana, vogliamo parlare di una iniziativa che sta rivitalizzando così un po' il mondo dei musei, dell'arte, qualora ce ne fosse il bisogno. Gli indicatori sono sempre buoni, musei pieni, soprattutto quando sono gratis, tipo a Natale, questa è stata una cosa recente, ma insomma anche quando si paga il biglietto. In questo caso parliamo dell'Art Speed Date. Hai sentito parlare di questa cosa, Carlo? No, io non ancora. Perché lo dici con questo no stentorio? Dovresti dirlo imbarazzato, che è una cosa che non sai, che ma sei tu, fai parte del mondo della cultura, del teatro. Ma è il gioco delle parti, no, tu la sai, io non la so. Ma non la so così. Neanche io, è questo il fatto. Allora se tu non la sai, io la so. Peter la sai, in regia, no? Giorgio in redazione, non lo so, non la sa nessuno. No, è una cosa nuova e quindi la stiamo imparando. Ne parliamo con Patrizia Asproni, buongiorno. Buongiorno a tutti. Presidente, tra l'altro, della Fondazione Torino Musei, anche lei è molto seguita su Twitter, Carlo, quindi seguila perché così impari un po' anche di cose interessanti. Com'è il nome su Twitter? Pasproni, ho mantenuto il mio, account Asproni. Riconoscibile. Perfetto. Di cosa stiamo parlando, come direbbero Totò e Peppino? Ecco, stiamo appunto parlando dell'Art Speed Date, come hai detto tu, è una nuova formula, è una novità nel mondo dell'arte, nasce appunto per la prima volta in Italia a Torino per raccontare in 10 minuti i capolavori della Fondazione dei Musei Torinesi. Cioè facciamo una cosa veloce, non stiamo lì a perdere troppo tempo. No, non è veloce, è il contrario. Pensa che molti studi, tutti gli studi hanno evidenziato che il tempo medio di permanenza di un visitatore davanti a un'opera d'arte va dai 20 ai 45 secondi. Che è molto poco, troppo poco. È pochissimo. Non si capisce nulla. Invece voi dite stiamoci un po' di più. Stiamoci un po' di più. Ecco, nell'Art Speed Date c'è un racconto dell'opera d'arte, perché di questo si tratta, come abbiamo detto, che dura ben 10 minuti. Sì. Ma per ogni opera d'arte. No, questo è il concetto, cioè un'opera d'arte però 10 minuti. Invece uno magari normalmente va a una mostra, ne vede 40, tutte 10 secondi e alla fine... perché ammortizza il prezzo del biglietto, se costa 10 euro ne vede 40, sono 25 centesimi a opera. Però non ha capito nulla. Non ha capito niente, ma ha pagato pochissimo ed è felice. Ha pagato pochissimo ed è felice. Ma mi scusi, che sono un po' le vecchie cuffie, quelle che c'erano, non so, che ci sono nelle chiese, dove ti viene spiegato... No, perché sono su un'opera. L'Art Speed Date è raccontata dal direttore del museo davanti all'opera d'arte, e quello che oggi viene live. Chiamato nel gergo storytelling. Certo. È lo storytelling abbinato ad un'opera, in questo caso appunto un dipinto. Ma viene fatto live, quindi dal vivo? Live, certo. Assolutamente live. E quindi il direttore lo fa 6.000 volte al giorno? Beh no, chiaramente bisogna prenotarsi, ci sono delle date e delle ore stabilite, bisogna prenotarsi, bisogna pagare, poco ma bisogna pagare. Certo. E poi dopo essersi goduti il dipinto si va tutti insieme a prendere un aperitivo, perché come dire il racconto continua anche dopo, ci si scambia impressioni sull'opera e magari si approfitta della presenza del direttore per chiedere ulteriori approfondimenti, quindi è un modo di come dire, prendersi del tempo e appunto godersi un'opera. Però diciamo che si può fare solamente su grosse opere molto importanti, perché se io per ogni quadro che devo vedere devo venire, prendere un appuntamento, chiamarla, pagare la cosa, ascoltare tutto, guardare l'opera, poi bermi l'aperitivo, cioè il rischio che per vedere il British Museum ci metto tutta la vita. Ma no, ma non è, voglio dire, ci sono degli appuntamenti che vengono stabiliti, il direttore propone un'opera, chi ha voglia di andare a vedersi quell'opera si prenota. Ecco, è molto semplice. Sì, ma stavo scherzando. Era una battuta. Stavo scherzando. Lo so. Quando uno poi deve dire che è una battuta, vuol dire che la battuta non è venuta bene. No, ma quello che voglio. No, perché mi sembra molto bello, ripeto, su un'opera dove uno. Poi posso anche bermi. Se no, io se vado a vedere un museo, alla fine sono ubriaco. Se dopo ogni opera devo bere un aperitivo. In questo senso. Cioè, l'opera. Vivere in stato etilico, no? Assolutamente. È un po' come la radio, in fondo, sì. No? È la stessa cosa. Uno ha voglia di ascoltare una trasmissione, si sintonizza su quella trasmissione per il periodo in cui dura la trasmissione. Cioè, un modo per focalizzare l'attenzione su un'opera, cioè invece appunto come abbiamo detto prima di andare a vedere una serie di opere, uno capisce quello che capisce, in questo caso si va a focalizzare l'attenzione su un'opera magari importante, cioè il direttore del museo, paghi un po' di più, però c'è anche l'aperitivo alla fine, cioè il direttore del museo in persona che cerca di attirare la tua attenzione e ti racconta ogni volta magari in maniera diversa, magari qualcuno farà una domanda o comunque si crea anche un momento diciamo live di interazione vera, e quella cosa secondo me, a meno occhio e croce, te la dovresti ricordare poi dopo un po' meglio che esatto. Non queste andate un po' fugaci al museo nel quale poi spesso uno è preso da altri pensieri. Ed è una cosa che è iniziata con quale opera, che non so se ce l'ha già detto, con la Sacra Famiglia di Raffaello, sì. Che proviene dall'Ermitage, che è in mostra in questo momento, parliamo aveva ragione Carlo Gabardini, cioè parliamo di opere pesanti, importanti, insomma non per esempio la prossima che farete a Torino. La prossima la facciamo alla GAM con Warhol. Che opera è in particolare di Warhol? Car Crash Orange. Ma e i direttori come... I direttori, che immagino che siano due direttori diversi, stiamo parlando, sono giusto? Sono due direttori diversi, e certo, perché sono due musei diversi. Esatto, no, era per questo, per precisare, nel senso che non è detto che tutti i direttori siano anche dei fini oratori, quindi cosa succede nel momento che il direttore invece non se la sente di devono fare... Devono studiare beh, i direttori. Intanto studiano e imparano qualcosa anche loro, giusto. Perché imparano a comunicare. Devo dire che in ogni modo tutti i nostri appuntamenti sono sold out, quindi c'è stato come dire un successo incredibile dell'iniziativa, le persone hanno capito che devono venire al museo non soltanto come visitatori ma per viverlo, devono come dire vivono il museo come un luogo familiare dove recarsi per come dire non soltanto a volte come succede annoiarsi ma divertirsi, imparare qualche cosa, trovare nuovi amici, conoscere appunto approfondire la cultura. Vogliamo ricordare, anzi lo faccio io che ci do qua sotto, anche i prossimi appuntamenti, perché sono tutti notevoli. Allora c'è, ce ne sarà uno su Picasso, Natura morta con Melone, poi ce ne sarà uno su Antonio Canova, Saffo, esatto, e poi anche Lucio Fontana. Ah, però. Sì, sì, sì. Beh, qui, insomma, parliamo come di dire, cose. Però sono i capolavori che abbiamo nei nostri musei e che spesso, questo è l'altro problema, sì, non si conoscono. Non si sa che cosa c'è, certo, a volte dentro i musei, anche perché appunto spesso e volentieri abbiamo tanti capolavori, questa è la fortuna dell'Italia, e in questo modo facciamo approfondire anche la conoscenza di quello che i nostri musei contengono. Molto bello, mi sembra un ottimo, molto bello, un ottimo progetto. Dovremmo, tra l'altro, ho visto che lei già mi segue su Twitter. Sì, io vi seguo su Twitter e ritwitto. No, ma vedo che mi segue anche proprio come Carlo Gabardini. Sì, la seguo anche come Carlo Gabardini. Non fare lo, esatto, spocchioso. Ma non sono spocchioso. La seguo anche come Carlo Gabardini. Non so se lei segue me e se, ecco, così, la sto seguendo da adesso. La sto seguendo da adesso. E vabbè, tutto questo non interessa niente a nessuno e quindi va benissimo così. Grazie a Patrizia Sproni per essere stata con noi e per averci anche su Twitter. A, certo, presto. E qual è l'account su Twitter? L'account che dobbiamo seguire qual è? Palazzo Madama, GAM e MAO, questi sono i nostri musei. Vabbè, i musei di Torino, grazie mille. Sì, bella, buona domenica. È l'idea che viene da chi, vedete, gestisce i musei di Torino per rivitalizzare un po' l'attenzione. L'Art Speed Date, abbiamo imparato una cosa nuova, è interessante. Io sono curioso, mi piacerebbe andare prima o poi. Anche a me molto. Andare a vedere. Perché spesso si guardano i musei, però poi uno non sa, o si deve leggere tutta la guida prima, diventa faticoso. Invece il fatto che il servizio venga fatto dentro nel museo è perfetto. Poi tu devi solo ascoltare. Ilaria dalla provincia di Como, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, io volevo prima di tutto fare complimenti per la trasmissione. Grazie. Grazie. Mi piace moltissimo. Poi settimana scorsa ero a Brighton dai miei amici Marina e Luca, e anche loro vi sentono, quindi magari li saluto. Da Brighton? Brighton, sì, Inghilterra. Che meraviglia essere, sì, ascoltati, sì, anche in Inghilterra. Tutti i giorni. We have to speak English now. Lo consideriamo un onore. Ma lei così ogni settimana va a trovare degli amici qua nel mondo? No, era un caso. Un caso sporadico. Se no dicevamo, beata lei. No, infatti, magari. Ascolti, io chiamavo per, sì, partecipare al concorso. Sì. Allora, il mio nome è Janet Yellen, che è la nuova, il capo della Federal Reserve americana. Ah, vedi. Però, Ilaria, devo dire che cioè, ci arriva un po' tardi, perché la nomina, o è di questi giorni? Perché era stata nominata tempo fa, Sì, era stata, però siccome hanno fatto proprio questa settimana. È vero, sì, entrava in funzione. Del time, sì, detto, sì, sì, è vero. Tra l'altro deve entrare in funzione proprio a giorni. Forse, esatto, adesso. Per la cui vera domanda è: il tempismo c'era. Brava, amerà la natura? Amerà la natura la prossima presidentessa della Federal? Già, perché erano degli... Speriamo di sì. Speriamo di sì, giusto. Comunque, come avrai capito, forse non è lei. Però non è male questa risposta. Ma sorpreso, non me l'aspettavo, e non era una di quelle che invece avevamo messo in lizza. Sbagliato. Forse sbagliando, è vero, ci correggono gli ascoltatori. Però, insomma, avevo ragione io, allora va bene, dai. Il resto siamo noi che decidiamo, quindi va bene, grazie Ilaria, buona giornata. Andiamo a... dove andiamo? Katia, che ci chiama da Perugia. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti, naturalmente, siete bravissimi. Grazie. Vorrei partecipare al quiz. Sì, siamo tutti orecchi. Diane Fossey, la zoologa americana che ha dedicato la sua vita agli studi sui gorilla. Che bella questa risposta. È stato il suo compleanno il 16. Io però... Ah, compie gli anni lo stesso giorno di Kate Moss, quindi... Sì, però perfetto. Qualcuno in più. Momento, Katia, però no, cioè, questa signora che lei ha citato è famosa perché sì. Sì, beh, Google le ha dedicato. Sì, sì, no, è molto famosa, molto quella famosa, che ha vissuto tanti anni insieme. Ah, giusto? Capito, sì. Mi corregga se sbaglio, perché io sono lo stagista, quindi sono anche ignorante. Oltre che ho tutte le mani sporche di toner perché faccio le fotocopie, dico, tra l'altro, anche ignorante. Sicuramente amerà moltissimo la natura, perché ed è... Ma quello è, direi che è frutto di quell'indizio. Quindi questa ad onore quasi quasi bisognerebbe assegnare. Però non è lei a cui avevamo pensato noi. È un personaggio molto più popolare, diciamo, anche forse scendiamo di parecchi gradini rispetto a una scienziata come questa. Diciamo che se nessuno indovina la richiamiamo e consegniamo lei i biglietti. Sì, oddio, è una bella risposta. Buongiorno. Grazie mille. Grazie. grazie mille. Adesso poi vediamo se, se intanto diciamo questo, ecco, come livello culturale un po' meno di una scienziata, 5.000 tacche meno. Un po' meno, sì, sì, sì, sì, sì. Rosanna da Como. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie mille. Senta, io ho pensato a Brigitte Bardot. Perché? Perché cioè, ama la natura, sì. La persona che ama la natura, addirittura più del fisico. Che sì. Poi va anche detto che chi è che non ama la natura, però questo forse dobbiamo interrogarci noi. Beh, sulle nostre, sugli indizi. Scusi, vada pure c'è avanti. C'è una notizia di questa settimana che riguarda Brigitte Bardot? Che io mi sono perso. Cioè, io l'ho pensato in base al personaggio. Va bene, Rosanna, grazie mille. Però non era Brigitte Bardot. E noi cerchiamo un personaggio che abbia qualcosa di attuale, che sia attivo questa settimana. Ripetiamo gli indizi e semmai aggiungiamo: è straniera, è donna, è straniera, ama la natura. Aggiungiamo un altro indizio. Possiamo dire che è un personaggio strano, che uno non si aspetta che sia proprio un personaggio. Sì, lo dico un po' male, lo so, sì. Lo sto dicendo un po' male, però di allargare un po' la visione. È un personaggio non proprio umano, eh. Ecco, diciamo 800 24 00 24. A tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Comunque qua abbiamo finito e l'unica cosa, come le dicevo, la chiamata della domenica mattina verrà a costare. Perché volevi tutti i soldi miei, eh? Senti, dal momento che pigli questo argomento te lo dico onestamente, per questo progetto non c'è budget. Ho capito, io è stata l'occasione comunque di lavorare in un giardino di un certo tipo. È un'occasione per te, non lo capisci? Scusa, a te che vuoi fare nella vita? Vuoi fare questo? È il giardiniere, vuoi fare? Eh? È come lavoro, è il sogno tuo? Allora ricordatelo, ragazzo. Cioè, nella vita, per realizzare i sogni, c'è bisogno di un po' di sacrifici. E questo era uno dei video di un gruppo che si chiama Giovani sì ma coglioni no. Hai capito di cosa si trattava? Ah, benissimo, tu l'avevi visto? Guarda, è una cosa alla quale tengo moltissimo. Sì, sì. No, tra l'altro, per chi non l'avesse visto o non YouTube, sa di cosa si sta parlando, l'audio. Era la scena di un giardiniere che va a fare un lavoro in un giardino e il proprietario del giardino gli dice: ah, ma allora non ci siamo capiti, per questo progetto non c'è budget. Esatto. Però ti sto dando la grande opportunità di lavorare in un giardino di un certo livello. Sai, nella vita bisogna fare dei sacrifici prima di guadagnare. E la faccia del giardiniere che spiega tutto, dice: ma come? Cioè, il meccanismo è di dare le risposte che vengono date alla maggior parte delle volte ai creativi, ai giovani impegnati nel design, che ti dicono, che uno dice: non so, mi rifai il sito? Sì, vabbè, però non c'è budget. Però puoi mettere nel curriculum, puoi mettere nel curriculum che hai fatto il sito della macelleria Pizzetti, che uno dice: ma non è che mi... o anche di aziende molto più grosse. Ne parliamo con uno di questi giovani che ha pensato, questi giovani, perché già la parola giovani sicuramente andrebbe abolita. Comunque, Niccolò Falsetti, uno degli ideatori di questa iniziativa. Buongiorno. Ciao, buongiorno, buona domenica. Buongiorno. Non è che andrebbe abolita la parola, andrebbe abolito l'etichetta giovani, no? Nel senso, un po' come faceva Moretti nel film Parla con lui, che è bravissimo a fare il giovane. Non so se ti ricordi questo passaggio. Sì. Niccolò, ricordo. Vabbè, certo, indimenticabile. Mi ricordo anche uno storico scontro generazionale tra Moretti e Monicelli, in cui Moretti si autodichiarava il giovane arrabbiato. Esatto, esatto. Però il tema c'è, insomma, il tema che non c'è lavoro, che in questa nuova generazione anche di lavori nuovi che prima non c'erano, legati alla rete, legati a internet, alle nuove tecnologie, al digitale, ha questa difficoltà perché spesso le risposte che si sentono dire è questo. Però intanto spiegaci un po' come, chi siete, come nasce questa idea, di cosa, dove volete arrivare anche, tra l'altro. Allora, noi siamo tre ragazzi italiani che vivono attualmente sparpagliati per l'Europa. Due di noi, io e De Marco, siamo qua a Roma e siamo tornati da poco dalla Germania, da qualche mese. Sì. Mentre il terzo di noi, Alessandro, vive a Londra e lavora là. Però stiamo cercando di farlo rientrare perché... Vabbè, ma a parte la geografia... No, vabbè, questo gliel'avevo chiesto io, un po' di curriculum, un po' di curriculum. Sì. Ci chiamiamo Zero perché siamo un mostro di teste e non voleva avere un nome anagrafico unico. o tre nomi anagrafici distinti e sotto il nome di Zero facciamo video, tutto qua. Però ho visto che sul sito Zero, diciamo, diventa un po' anche un come dire, una parola d'ordine del momento che stiamo vivendo e anche un po' del vostro approccio, quasi mi verrebbe da dire politico, insomma, alla faccenda. Zero vuol dire tante cose, no? Certo, noi abbiamo proprio una pagina di manifesto sul sito e che cerca di spiegare perché ci chiamiamo Zero. Noi ovviamente lavoriamo, nel senso che con Zero ci poniamo in maniera professionale nell'ambito dell'audiovisivo, del videomaking. Però al di là di questo sappiamo partiamo da una grande, diciamo, percezione disilluta di questo mondo e da lì appunto Zero, da lì a Zero il passo è breve a livello di nomi. Poi in realtà di politico secondo me c'è poco, in senso canonicamente incluso, inteso. C'è zero, direi, di politico. C'è zero di politico. No, beh, nel senso che la politica sta da tutte le parti, volendo, e quindi sta anche in un manifesto come il vostro. Esatto. Non che ci sia un'intenzione. È un po' come il concetto di creativo, tutto e niente, e non sempre, insomma, sia. Adesso però ti voglio fare scusami, Nicola, una domanda, diciamo, sì, cattiva, nel senso, vabbè, voi, la vostra professionalità è questa, videomaker. Però è vero che ci sono troppi videomaker, troppi aspiranti giornalisti, e lo dico io che faccio giornalista, troppi aspiranti attori e pochi, come nel video invece voi trattate, giardinieri, idraulici e antennisti? Non lo so, è una domanda che ti faccio a livello proprio così generazionale, ma anche di condizione oggettiva sul mercato, che poi può generare quelle risposte, non c'è budget. Ma allora, guarda, ti posso parlare soltanto della mia esperienza personale. Sì. La mia esperienza personale è quella di un lavoratore che lavora in questo settore da un po' di tempo, non da tantissimo, però da essersi sentito dire quella frase talmente tante volte da farci una campagna virale sopra. Sì. Che si accorge che in realtà il mercato non c'è. Questa è la questione, proprio secondo me, un po' disarmante della situazione. Però ribadisco, questa è una percezione mia. Noi, diciamo, tendenzialmente non ci occupiamo poi di macroeconomia o di cose del genere. Io proprio nella nostra esperienza personale, facendo un'analisi nostra, abbiamo difficoltà a credere ci sia un mercato. Se ci pensi, insomma, è semplice, soprattutto cinema e televisione hanno due poli, è difficile creare concorrenza, non c'è competizione, i soldi ci sono, sono mal distribuiti, stessi nomi da tanti anni, c'è difficoltà. Quindi magari, ecco, traduco io e sintetizzo, giusto per metterci un paletto, cioè tu ti stai dicendo il mercato ci sarebbe anche, però c'è poca concorrenza, i soliti nomi, i soliti raccomandati, i soliti mali italiani, per cui poi finisce che le risorse sono poche e per chi sta entrando adesso è difficile. Questo è possibile, è plausibile, secondo me è anche abbastanza. Guarda, vero. Carlo Gabardini forse si voleva fare una domanda. Carlo, sì. Gabardini, che tra l'altro è qua con la promessa di avere visibilità, cioè ti facciamo venire, esatto, stagista presa e non, no, ma infatti vorrei parlare proprio di questo. In realtà, cioè, una cosa che voglio dire è che i video sono molto belli, soprattutto perché partono da questo presupposto che uno dice: chi è che si permette nel momento che ti arriva un idraulico in casa, sì, di dirgli: guardi, mi scusi molto, ma io non c'ho i soldi per questa roba che mi ha appena riparato. Tra l'altro, quello dell'idraulico, il protagonista è lui, è Niccolò, l'idraulico. Ah, non la sapevo. Faccia che fa quando gli dice non c'è budget, è impagabile. Scarichi e perdono. E quindi su questo, diciamo, l'iniziativa è lodevole in questo senso, sì, nel senso che ci sono tanti altri lavori. Se posso però dire una cosa, in realtà gli altri lavori che ormai non vengono pagati non sono solo i lavori creativi, sono un sacco di altri lavori invece anche meno creativi, diciamo anche meno piacevoli, e io penso che sia molto grave quella cosa. Dico questo non per dire che non sono importanti i lavori creativi, ma più che tutto per dire che non mi sembra un elemento di novità il fatto che i creativi siano poco pagati. Ti faccio l'esempio su di me, nel senso che è una cosa perché adesso, cioè, non è una questione che è nata con Facebook, diciamo, o con ai i social o oggi. Però, sì, chiedo scusa. No, è rapidissimo. Io fin da ragazzino mi sono sempre invecchiato quando mi chiedevano quanti anni avevo, perché è ovvio, i produttori ti dicono: dai Carlo, sei un ragazzo, scrivimi questa sceneggiatura e non ti pago. Quindi che non è un problema della crisi di adesso che i creativi non vogliono pagarli, ma che c'è un po' il concetto che in quei lavori, Niccolò, lì a te ti piacciono molto e quindi sei giovane fino ai 45 anni. Che ne questo pensi, volevo Niccolò? Dire. No, infatti infatti noi non è che vogliamo dire di aver scoperto l'acqua calda, anzi è proprio quello il grave, che negli anni questi mestieri non sono riusciti ad acquisire la dignità che hanno altri mestieri, sì, come quello dell'idraulico o i mestieri pratici. Sì, no, sì, perdonami, io non volevo farti un appunto su questo, non sto dicendo che non sia nuova questa cosa, stavo dicendo che è molto bello secondo me il video, perché in realtà non racconta solo i creativi, racconta una marea di giovani che fanno un sacco di lavori, anche magari non creativi, che si sentono rispondere in questo modo. Questo volevo dire. No, ma infatti sono perfettamente d'accordo con te. Secondo me, diciamo, la campagna agisce su due fronti. Sì. Da un lato c'è il punto di dare dignità a questi mestieri creativi, dall'altro ha fatto venire fuori il fatto che in Italia c'è il malcostume di non pagare le persone che lavorano. Esatto. Che è molto più diffuso di quel che sembri. Niccolò Falsetti, noi ti auguriamo a te e ai tuoi soci uno splendido presente, nonché avvenire. E devo dire che con questi video vi siete conquistati un po' di notorietà. Ve la meritate, perché i video sono pensati, realizzati in maniera deliziosa. Zero. Chi ha bisogno di realizzare dei video può andare anche da loro. Insomma, fateli lavorare questi ragazzi. Grazie mille. Grazie mille. In bocca grazie al lupo. A voi. Ciao, buon lavoro. Buona domenica. Ciao. Perché si fa anche così. Uno si inventa una cosa, si fa fare un po' di pubblicità e poi arriva la notorietà, arriva il lavoro, ed è giusto che sia così. Abbiamo 2 minuti e mezzo, no? Sì, per chiudere. E allora torniamo con gli ascoltatori, chiudiamo e speriamo di indovinare il personaggio della settimana. Francesca da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccola qua. Eccomi qua. Dunque, mi ero svegliato da poco, quindi ho acceso tardi la televisione. Una frase... Poi noi siamo alla radio, quindi... Mi scusi, la radio, sì, perché sono ancora assonnata. Mi ha illuminato una frase. Sì. E quindi il personaggio, posso dirlo? Qual è la frase intanto che l'ha illuminata? Ah, che era un personaggio non del tutto umano. Perfetto. Ci dica. Heidi. No. Le sorridono. No, non è Heidi. A parte che ci interessa sapere qual è la notizia di primo pelo, proprio la nuovissima notizia su Heidi. Heidi. Cioè il motivo per cui dovrebbe essere stata sui giornali questa settimana. Ho perso. Grazie Francesca, non è Heidi. Le spiego a lei, a chi magari non ha capito. Il personaggio è un personaggio della settimana, perché ha qualcosa da dire questa settimana. Comunque c'è andata vicina, possiamo dire che Heidi c'è andata vicina. Diciamo che c'è andata vicina, sì. Abbastanza, sì, vicina. Antonella da Genova. Sì, sono io. Buongiorno. E niente, io penso che sia Peppa Pig il personaggio. E c'è l'applauso, brava. Zona Cesarini proprio. Mai così tardi abbiamo indovinato, perché non era facile. Tutti pensavano a donne viventi. Peppa Pig non è una donna vivente. Ragazzi, ho visto che c'è un minuto. State tranquilli, abbiamo tempo per ragionare ancora con Antonella. Complimenti. La notizia della settimana qual è, Antonella? Lo sappiamo. Che è uscita al cinema, ecco. Sì, esattamente. Al cinema, uscirà anche a teatro a febbraio. Anche a teatro? Sì. Questo vedi, non lo sapevamo. Sì, a Roma. E lei ha aggiunto anche questo. Grazie Antonella. Perché l'ho letto sul giornale. Noi ci fermiamo qua. E, insomma, lei ha vinto i biglietti della mostra di Munch, 2 biglietti a Genova. Continuiamo a dare biglietti tutti i sabati e tutte le domeniche. Chiudiamo qua, ringraziamo Andrea Piana che ha scritto con noi il programma, così come Giorgio De Luca in redazione. Sì, signori. Peter Bescapè in regia, che continua a farci segni perché dobbiamo chiudere e non possiamo sforare, perché se no ci fanno e noi non sforeremo. Alessio Maurizi, Carlo Gabardini, e un saluto a quelli che ci ascoltano in podcast. Sono Michele da Milano. Per salvare l'Italia mi chiedo, nessuno si accorge che il totale delle pensioni, solo quelle da oltre 100.000 euro all'anno, sono 238.000 e fanno un totale di 50 miliardi che non abbiamo. E stiamo ancora a chiederci come mai mancano i soldi per l'IMU e l'IVA e quant'altro. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto.